ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una ci cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto. Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Tifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto. Fate schifo, pezzi di merda. Allora, ascolti un attimo. Innanzitutto le faccio presente che questa telefonata viene registrata. Anzitutto una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti sì, è stato già arrestato. Grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi, sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi, sono veramente un'altra persona, ho salvato qualche dente, vi ringrazio, grazie a tutti, ciao, ciao, arrivederci. Comunque, giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. A mio discapito, capito? Guarda che belli, questi li ha fatti Sonia, sono degli... Dici tu cosa sono, Sonia? Gli involtini di verdura alla griglia. Sì. Alla griglia sono alla questi? Alla griglia, non fritto. Quindi sono anche dietetici questi qua. Mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete sì, andare nei ristoranti cinesi. Siate razionali. Io così a fine anno non ci arrivo. Io così a fine anno non ci arrivo. L'altra sera non mi trovo a passare per Ponte Migliore. A un certo punto da lontano ti vedo che arriva un ragazzo, mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo con lo zompo monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo. Mi credo, era cinese. Grazie di cuore per la cortese attenzione anche oggi nei nostri confronti e un grazie alla regia di Alessandro Brunello per la parte tecnica. Frocia Lenzo. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn. Todo cambia! I see the girls walk by dressed in their summer clothes. In collegamento da Roma, David Parenzo, applausi, applausi, applausi. Buonasera amici, giornata triste oggi, giornata triste. Io sono felicissimo, qual è la giornata triste? Escono a Roma, nei locali pubblici, cosa una cosa molto seria. Ma cosa molto seria. A Roma, in alcuni locali pubblici. Sì, sì. Non vogliamo sono stati cinesi, messi non vogliamo dei cartelli cinesi. Qui i cinesi non possono entrare. E poi li hanno tolti. Ma è molto grave. Ma la non... gente avrà diritto ad avere paura, no. Un minimo no. La no. Gente secondo cioè, Parenzo tu sei uno non di quelli che avrebbe messo avere... le stelle no! Gialle. Ma figurati. Tu sei uno di quelli. Guarda che ma la cosa è molto seria. Ma io sono il primo. Un locale pubblico che mette un cartello qui i cinesi non possono ma è una entrare follia. È una follia. Discriminazione certo. Assoluta. Ma assolutamente non si può scherzare con queste tipo di cose. cose, che però è incredibile. Ha paura. È ma che vuol che dire ha paura? Il nostro compito è quello di dire che è una follia. Ma che sì, ti senti? Di chi? L'elite. Chi ti senti? Ma no, l'elite. Scusami, ma tu condividi chi? Ma no, no, tu non dirai, lo condivido. Diciamo una non cosa sola di buon senso: sono dei coglioni quelli che mettono totalmente, questi cartelli. Totalmente dei coglioni, però hanno paura. Non c'è però hanno paura. Ma sono dei coglioni hanno che hanno paura. Ma tu li giustifichi? Vabbè, allora. No, non li sto che giustificando. Vuol dire hanno paura. Hanno paura. Dunque è una reazione di paura che in qualche modo è va una ascoltata reazione di, anche va durante ascoltata. Sì, sì, anche nel passato c'era chi aveva paura. Ma che c'entra? Va ascoltata. Poi sì, ovviamente quei cartelli vanno rimossi, non va è che puoi rifiutare i cinesi. Va ascoltata. Comunque a Milano ha spiegato che non c'è a motivo Milano, di aver paura. Alberto Gottardo. Senza paura nemmeno dei fascisti. E quindi sai. Allora Gottardo che rivendica? Molto. Abbiamo qualche messaggio rivendico, contro Gottardo rivendico. Sulla vicenda sono orgogliosissimo della torta in faccia, chiamiamolo così. Lo rifarei mille volte. Il ma non in faccia. Purtroppo, il tirami dux, fez. Come no, anche in faccia, in testa il tirami dux tirato sul fascista. Non tirato, capovolto, perché essendo tirami dux va capovolto. Te, anche questo è giusto. Gottardo, ma dimmi. Come ti sei permesso a tirarci la torta in faccia a Polegato? Allora, merda umana, ma come ti permetti? Come ti permetti? Stronzo, farabutto, merda. Fai schifo, fai, Gottardo, sei una merda. Io dove c'è la testa ti ci avrei messo i piedi, Gottardo, in due secondi. Fai schifo, sei odioso, sei una merda. Molto vario, molto vario, grande dotato di grande vocabolario questo poveretto che ha chiamato per lasciare questo messaggio del cazzo pieno di odio. Comunque ragazzi, voglio essere chiaro, ovviamente io dicevo che le persone hanno paura, dunque fanno anche cose folli quando si ha paura. Fanno anche però cose folli. Io è metterei evidente che mettere un cartello, è evidente che mettere un cartello fuori da un locale dicendo non vogliamo i cinesi è una puttanata pazzesca. E se uno mettesse il cartello non voglio Cruciani, per esempio, ma che come cazzo la prenderesti? Ci sono tanti locali dove uno può andare. Certo. Cioè, ci sono tanti locali dove uno può andare, non è che tutti quanti a catena hanno messo i cartelli vietato l'ingresso ai cinesi. Ci sono stati un po' di locali, forse è uno a Fontana no, di Trevi più di stato uno, rimosso dopo, dai, su, ma è una cosa ridicola, è chiaro che è una cosa ridicola, ma non è che questi qua sono dei criminali, è gente che ha paura e che ha avuto una reazione emotiva. Ha spiegato che è una follia, che non esiste al mondo. Ascolteranno la televisione, le persone sapranno che è una follia mettere questa cosa qui, anche perché non c'è nessun pericolo se entra un cinese. Ma intanto l'hanno dai, fatto, su. Intanto l'hanno fatto, perché si diffonde questa cosa. Io stamattina ero in palestra. Però c'è Meluzzi. Nella c'è mia Meluzzi, palestra aspetta, c'era c'è una Meluzzi. Ragazza cinese. C'è Meluzzi. Il tigre, no, Meluzzi, il tigre in palestra. Che c'era una ragazza cinese. Che hai fatto? Okay, okay. No, c'era una ragazza cinese e alcuni che erano lì, adesso non vorrei neanche sì. dire, alcuni che erano lì hanno detto ma come l'hanno fatta entrare? Allora io ho detto ma scusa cosa vuol dire l'hanno fatta entrare? Eh sì, perché qua si diffonde di più. Hai fatto, scusi. Ti sei eretto, no, gli ho detto, ti ma sei scusa. Subito ribellato no, ma a gli ho questa detto, mancanza non mi sono, di diritti. Ho detto una cosa che qualunque ti sei qualunque, messo lì davanti no, venite, ho detto una cosa che qualunque umano, persona che normale avrebbe detto sì. Tranne i pavidi come te che vogliono sempre stare dalla parte del mainstream fottuto. Fosse stata gnocca, del fottuto mainstream, ma dire che in una palestra ma si certo. può diffondere di più solo perché è cinese, ma è e poi follia. Si è scoperto ma che è non era cinese, non era manco in realtà, cinese. Ma era giapponese, ma quindi era pure sbagliato. Pure sbagliato. Ma com'è? Una ragazza molto carina, normale, bene, era lì sul tappeto che correva. Non si può e avevano tutti o non paura. Si può dire che è figa questa qua, magari perché ma si non è, perché magari non si può dire che è figa. Non è una, diglielo se la vedi, glielo puoi dire tranquillamente. Magari ti arriva la sberla se glielo dici di Berlino. Però, scusa, non ho capito, non lo so, dico che potranno fare se tu vedi una no? per strada, sì, ma se tu vedi una per strada e dici ammazza sei figa, beh, puoi mettere anche in conto che una perché? Magari non gradisca e ti arriva una sberla. Ma perché devi picchiarmi una che le dico amore mio, sei una gran figa, no, vorrei scopare. Si arriva normalmente a uno per strada gli dici così. No, ma io no, però se c'è uno sguardo ecco. complice. No, ma dico non bisogna approcciare, sì, ho capito. Allora ragazzi, posso dirvi una cosa, si arriva all'assurdo che ho letto da qualche parte che una manager di un'azienda inglese ha detto che non bisogna parlare di calcio in ufficio perché è sessismo. Una manager di un'importante azienda inglese ha detto non bisognerebbe, gli uomini in ufficio non devono parlare troppo di calcio perché altrimenti la cosa è sessista e discriminatoria. Cioè arriveremo a questo. Tu ci porterai a questo, Parenzo. Sì, sì. Ci porterai il a questo. Buonismo, arriverai dirà. A dire: adesso beh, è vero, così. Bisogna proteggere la minoranza. Magari ci sono solo due donne lì. In quel contesto, effettivamente, gli uomini dovrebbero stare attenti a come parlano. Non parlare troppo di pallone. Non no, parlare troppo di figa. Ma figuriamoci. Anzi, ci sono le ragazze che sanno più di calcio di me. Io ne conosco un sacco. Cosa figurati. È pazzesca. La cosa ma pazzesca. Non ci vuole senti tanto, a Prato. Non sei un voci, di calcio. Voci di cinesi. Do, esatto. Voci di cinesi a Prato. Senti. Ha paura del coronavirus? È un po' sì. direi. Arriva, questo glielo dico, arriva. Troppi cinesi. Troppi cinesi, eh? Sì, a Prato sì. C'ha un po' paura? Un po'. Troppi cinesi a Prato. Però bisognerebbe dire, signori di Prato, adesso mi faccio immediatamente razionale, che i cinesi che sono a Prato, probabilmente Wuhan, quel posto che si chiama Wuhan, nemmeno lo conoscono, non lo conoscono, non ci sono mai andati. Si sentirebbero stranieri a Wuhan, i signori che sono a Prato. Dunque le possibilità che abbiano contratto non so come questo cazzo di virus sono zero sotto zero. Dopodiché Meluzzi dice che ha lavorato nella sanità pubblica. Meluzzi dovrebbe essere curato dalla sanità pubblica. Ho lavorato nella sanità pubblica. Sì, ma questo può essere vero, figuriamoci. Alessandro Meluzzi, che idea ti sei fatto di questa storia? Io non sono un virologo, ma ho lavorato tanti anni nella sanità pubblica, anche nella direzione trasmissione sanitaria. E quindi i criteri di massima cautela che vanno su. Dice sono pessimista. Non sono un virologo, ma non è neanche un pope, peraltro. Cioè, non è un virologo, non è un pope, ma si traveste da pope. E ciò nonostante parla di qualunque cosa dello scibile umano. Vaffanculo. Io sono moderatamente pessimista. Cioè, tendo a pensare che ci troviamo di fronte ad una. Ad una tragedia vera, dai contorni ancora totalmente indefiniti. Credo che dalla Cina arrivino molte informazioni, ma una parte delle informazioni soltanto, come è avvenuto anche in precedenti epidemie. E tendo a pensare che la situazione sia già attualmente quasi completamente fuori controllo. Sembra un po' il divino. Sembra un po' il divino. L'hai detto tu. L'hai detto tu, meno male, meno male. Fammi sentire com'è la situazione secondo Meluzzi. Fammi sentire l'audio, cosa ha detto. L'ultima parte. Ma una parte delle informazioni soltanto, come è avvenuto anche in precedenti epidemie. E tendo a pensare che la situazione sia già attualmente quasi completamente fuori controllo. Perfetto. Perfetto. Perfetto. Poi entra in campo Giulietto Chiesa. Ma nella stessa trasmissione? No. Giulietto Chiesa. Diventava un incubo altrimenti. Mamma mia, ragazzi. Nei documenti militari americani c'è scritto di una guerra imminente con Cina e Russia. Io ho letto e leggo tutti i giorni i documenti politici che vengono dai centri di ricerca militare. Quali centri? Sono bollettini medici! I tuoi! Allora, c'è scritto sulla strategia degli Stati Uniti. C'è scritto che è un tuo bollettino medico, clinico. È scritto esplicitamente. La Cina e la Russia sono i due nemici nei confronti dei quali gli Stati Uniti dovranno fare i conti, perché la guerra è imminente. La guerra è imminente. Beh, ragazzi, mi tocco i coglioni a pelle, scusa. Dice Giulietto Chiesa che la guerra è imminente, mi tocco i coglioni a piene mani. Dice anche che l'operazione politico-militare, sta parlando del virus, non si può escludere. Xi Jinping deve anche capire quale e se c'è stata un'operazione politico-militare, perché questo non si può escludere. Non si può escludere che il virus sia praticamente il frutto di un'operazione politico-militare. Credo che sia uscito da qualche laboratorio. E tu non gli dici niente. Ma io che devo... non gli dici niente, per te è normale. Questa riflessione per te è normale. No. Va bene. Da dove è venuto questo virus? Da dove è venuto? Qual era la funzione del laboratorio di Wuhan? Che cosa si faceva là dentro? Quali erano i gruppi di ricerca? Perché c'è sempre il sospetto, e rimane il sospetto fino a questo momento, che questo virus sia uscito per errore da qualche laboratorio. Io non è che condanno l'omosessualità, figurati, purtroppo ci sta. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Quelle mascherine servono a qualche cosa in uscita, cioè servono a diminuire l'emissione delle goccioline di flughe attraverso cui il virus si diffonde. Quindi servono soprattutto per non infettare altri, ma non per non infettarsi. Questa è una cosa che la gente deve avere ben chiara. Quindi fino a che non usciranno in commercio dispositivi efficaci, è un placebo. Ma quindi ci consiglia il casco, Meluzzi? No, io non consiglio niente. Ma io uno stai zitto! Io cara signora, consiglio di farsi il segno della croce. Consiglio di farsi il segno della croce. Infatti, non confidare nella Vergine Maria. Sì, è la protezione principale che abbiamo. Guarda, le mascherine. E poi l'hanno portato via. E poi sono entrati in studio due vestiti di bianco e l'hanno portato via. Aspira, la Vergine Maria no, però. Dai. La Vergine Maria come no. Ma come fai ad andargli dietro? Non gli dici nulla la tu. Vergine Maria. Ma, ma perché non gli dite nulla? Perché? La Vergine Maria. C'è una linea che congiunge Salvini a Meluzzi. La Vergine Maria, sì. L'Immacolato però Cuore. Posso di dirti Maria. Che c'è un aspetto di comicità in una dichiarazione dell'ambasciata cinese in Italia, no? No, sul coronavirus. Figurati. No, ma senti, condanniamo gli atti di intolleranza. E fin qui è giusto, gli atti di intolleranza, che però non mi pare che ci sia stato la corsa e quella caccia questo al cinese. Questo è un atto di intolleranza. No, ma non c'è la caccia al cinese tu in tutta guarda, Italia. Oggi ho sì, preso l'autobus. Però, amico mio, sì. Guarda la cosa? Gente. No, è impressionante. Ma non è che non c'è mai. Nessuna aggressione come nei confronti di cinesi. No, come dai, li guardano? Diciamo. Ma come ho capito, li guardano quando salgono. Sì, ma non c'è. Ragazzi, ma la cosa. Sì, ma non c'è stata nessuna aggressione né violenza. Ma nei ti credo, di ma sei pazzo! Allora, ma per forza! No, però ti posso far guarda posso solo far come notare, li guardano. Posso far notare questa leggera. Però a Venezia sì, a Firenze anche, a Roma i cartelli. Atti di insulti da parte di ragazzini. Iniziano ad essere in Toscana, quell'audio casi. Della Toscana ce l'abbiamo di nuovo, l'audio della Toscana, e dopo lo riprendiamo, dopo lo riprendiamo. Allora, Venezia giorni fa, no, dopo lo riprendiamo. Allora, è abbastanza curioso però che l'ambasciata cinese in Italia, l'ambasciata cinese in Italia parli di diritti, scusami amico la mio, la patria dei diritti, la Cina, un po' questo è curioso amico mio, cioè non è successo nulla di particolarmente grave, no, scusa, però che l'ambasciata cinese parli di tutela dei diritti, ma dovremmo essere noi cinesi in Italia, questo no. Ma perché dovremmo essere noi ma a sì, rivendicarlo, ma non succede, perché non è, noi ma non vogliamo derogare, a differenza della Cina, noi sì, non siamo però, come i cinesi e non deroghiamo al sì, nostro stato di diritto. L'ambasciata della Cina che fa una dichiarazione pomposa sui diritti negati ai cinesi tutela i suoi cittadini qua, amico suoi mio, cittadini qua. I cinesi, amico mio, sui diritti, vabbè no, che ma dovremmo essere noi dai, a indignarci, noi italiani. Che per 10 giorni non avete detto un cazzo, 10 giorni il governo cinese non ha detto un cazzo, leggo qui. Il governo cinese, quei 10 giorni di silenzio. L'epidemia poteva essere frenata su un quotidiano a te molto vicino. Dai, su. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche in tutto. Fate schifo, pezzi di merda. Questo è un audio che circola da giorni. Toscano, potrebbe essere anche un fake, naturalmente. Una, sì. E tra l'altro era condito di altre cose che abbiamo tagliato, ovviamente, in mezzo, no? Cioè, però c'erano dei cinesi che credo che passeggiassero sul Lungarno a Firenze o comunque in qualche altro posto dove c'è un fiume. E uno va là a insultarli. È evidente, può essere anche una cosa comica, naturalmente. No, non è mai comico quando insulti delle persone senza ragione. Quando gli svuoti il tiramidux invece in testa, potrebbe anche essere comico. Allora, ieri sera, durante la puntata di Formigli, ha parlato uno dei, come possiamo dire, il ragazzo che era guarda, in casa. Guarda, mi sta scrivendo in questo momento il direttore Davide Vecchi, che lo conosci, no? Dei giornali toscani, del gruppo dimmi, Corriere di Sera, no? Eccetera. Dimmi. Che giustamente ha fatto una bella inchiesta sul Corriere dell'Umbria sulle fobie surreali. Ma certo, ma assolutamente. Chi ha detto guarda, contrario? No, ha detto contrario? Davide Vecchi, che evidentemente sta ascolta c'entra? La certo. trasmissione, che ha voglia di 5 minuti di distrarsi dal lavoro. Coronavirus, controlli sanitari sugli autobus Perugia, esiti negativi. Un autobus della Sulga diretto a Perugia è rimasto bloccato per ora alle porte di Roma Nord perché a bordo la presenza di 2 passeggeri cinesi ha allarmato gli altri viaggiatori. Ma sì, ma anche in provincia di Rovigo hanno tenuto in quarantena un ragazzo. Vecchi ha ragione, cioè, ragazzi, la gente è impazzita. Bisogna, gente chiaramente impazzita. Bisogna cominciare a dire chi come noi fa sto mestiere, cominciare a dire che non c'è. Non è che quando vedi un cinese quello no, però, è una bomba, Davide, un pericolo. Questo virus in Italia, dove non c'è nessun caso di decesso, ha avuto un ruolo fondamentale. Sta scovando un sacco di coglioni sui social. Allora, io sto ripulendo i miei profili degli imbecilli. Per senti. E il ragazzo, quello che è stato citofonato da Salvini, hai rovinato la vita a un 17enne, Yassin. Da quando è successa questa cosa? Tu quando esci... A un 17enne gli ha rovinato la vita in 5 minuti, da un giorno all'altro. Un politico che è venuto nella periferia così, cioè da, non so, pizzaiolo, postino, non so, a suonare come dire, tu spacci. Ma cos'è? Gioca a calcio, sono un calciatore. Non sono uno spacciatore. Mio padre ha precedenti. Tuo papà che fa? Mio padre lavora, fa il corriere. Tuo papà ha precedenti? Sì, 20 anni fa. Per? Non per spaccio. Non per spaccio, altre cose. Mio fratello ha precedenti. Hai precedenti tu? Mai avuto precedenti. Tuo fratello sì? Sì, mio fratello sì. Non per droga? Mai. E non abita più a casa mia da 2 anni e mezzo, 3. Borgonovo dice che ha dubbi sul fatto che abbiano rovinato la vita a questo ragazzo. Sì. Pazzesco. Io ho qualche dubbio sul fatto che abbiano rovinato la vita a questo ragazzo, che il cui nome peraltro è stato reso noto un paio di giorni dopo da tutti i giornali. Va in televisione, rilascia interviste, quindi mi sembra che non abbia la scritta sopra. Rilascia l'intervista perché ha deciso di difendersi pubblicamente dopo che... Infatti... Signor Borgonovo, Borgonovo. Però io ho un sogno. Io ho un sogno. Si vota in Toscana. Salvini che suona i campanelli di cinesi dicendo: scusi, lei ha la febbre? Ha la tosse? Mi fa auscultare un po' i polmoni? Raimondo da Parma. Vestito da medico, bravo. Sarebbe fantastico. Silenzio, vecchia. Raimondo da Parma, dai. Ci sono? Dimmi, Raimondo, dimmi. Ciao, innanzitutto buonasera. No, a voi. Non ce ne frega un cazzo le buonasera, dimmi subito. Buon lavoro. Allora, buon lavoro lo dice a tuo padre, a tua madre. Ma non c'è, qui bisogna andare al sodo, vai Raimondo, allora, dai. Allora, ma devi dare una bella spiegazione, tu e Mughini. Ancora per questa storia. No, ferma, è la prima volta che ne parlo. Non ne posso più, ho spiegato ieri tutto, ho spiegato tutto. No, io non l'ho sentita, purtroppo ero fuori, ho sentito questa situazione. Non ho insultato nessuno. E nemmeno Mughini l'ho fatto. Non ho detto insultare. E allora che vuoi? Voglio sapere per quale motivo quel ragazzo ha fatto il gesto e paga una città, perché Napoli... Ma chi Mughini ha detto che paga una città? Chi ha detto che paga una città? Chi l'ha detto che paga una città? Mughini ha detto Benedetto Croce. Ma quello ha detto ma ragazzi, quando si fanno questi mestieri, quello di chi comunica, deve andare a fare il parcheggiatore. Ma, allora, vuoi io che tante volte ho detto, che ne so, scusate il tema, era una metafora per dire se i bambini non vengono in qualche modo, se il genitore non interviene, quello può andare a finire e potrebbe finire a fare il parcheggiatore abusivo. L'unica sua cosa sarà fare il parcheggiatore abusivo. Era per dire, e lo ripeto per l'ennesima volta, era per dire che bisogna intervenire prima, secondo lui, su quel bambino, altrimenti potrebbe finire male. L'avete capito o no, Raimondo? Non era un'offesa nei confronti di nessuno. Avete allora rotto Mughini, il cazzo, chiaro? Attraverso te, chiedi a Mughini. No, non chiedo a Mughini niente. Allora, no, non chiedo niente, perché se glielo chiedo... Se io, sì, lo so, benissimo. Cantato, sì. Napoli lavati col sapone. Benissimo, Mughini sono degli imbecilli. Sì, no, non lo so se l'ha detto, ha sbagliato. Guarda che prima Chi abbiamo? Che c'è? La centrale del Napoli? Che è? Cioè, ha detto che è una goliardia. Ha sbagliato, perché quelli là che cantano in quel modo, secondo me, è una follia. Ma lo direbbe anche lui così, te lo sono sicuro. Dai, ciao ragazzi, ci sentiamo tra poco, dai. Il segnale orario vi è offerto da... Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Sono Carlo Robiglio e per esperienza diretta posso dire che Connext è un'esperienza estremamente importante per i piccoli imprenditori. Ho avuto l'occasione e l'opportunità di conoscere tanti imprenditori e soprattutto di trovare nuove occasioni per fare business. Connext è a Milano il 27 e 28 febbraio. Scopri di più su connext.confindustria.it. Ultima ora. Il cane Lucky risolve il problema del traffico a Palermo. Basta fake news. Con Monge Grill vai sul sicuro. I bocconcini sono grigliati al forno per una migliore appetibilità. Monge Grill è 100% made in Italy e formulato senza cereali, senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro e consiglia a tutti una passeggiata a piedi con i nostri amici a quattro zampe. Oggi parlano tutti di Industry 4.0, ma il tuo software gestionale parla con gli impianti di produzione. L'ERP di Centro Software, oltre a parlare tutte le lingue del mondo, dialoga anche con le macchine. Inoltre consente di gestire tutti i processi di pianificazione, MES, logistica, supply chain, controlli qualità, CRM, finanze e amministrazione. Scopri l'ERP più completo già pronto per Industry 4.0 su centrosoftware.com. Centro Software, il miglior ERP per le imprese italiane. In cima a una montagna innevata, o in attesa della prossima onda. Ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Sabato 8 e domenica 9. Ci rivediamo sulla 7 tutte le sere alle 20.30. Lilli Gruber conduce 8 e mezzo. Questa sera alle 20.30 sulla 7. La 7, sai cosa vedi. La Zanzara. Iniziamo nuovamente il collegamento che purtroppo è saltato, vi chiedo scusa. Noi abbiamo bisogno di avere fiducia in noi stessi per restituire grande dignità. I soldi dell'Andrangheta, i soldi della mafia, hanno i voti, hanno tutto, hanno le televisioni, hanno tutto. Che fai in Italia? È meglio andare all'estero, organizzarsi all'estero. Non si può sapere che succede. Vi chiedo scusa, cari amici. Ma assaggio tutto, solo culo, niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo, niente. Per una notte romantica. Culo, niente. Impreparato mi toglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh, vai con la notte romantica. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. E in isolamento a Shanghai si ascolta la Zanzara. Cazzo duro! Friday night I walk alone to get the feeling right. Froce Lorenzo. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli. Gennaro a Forcella, Fitto Cinese Catus. Per non fai fila e fila a posta agli uffici pubblici, o cinese costa 15 euro. O cinese Catus. Se uno vuole stare libero in metropolitana, in pullman, o cinese costa 50 euro. Se uno trova il ristorante affollato, o costo cinese costa 70 euro. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli, o cinese Catus, a vostra disposizione. Ragazzi, questo qua è un genio assoluto. Adesso, in questo caso, oggettivamente, qui è puro genio. Non oserei mai dire made in Naples o una roba contro. Questo è la genialità che effettivamente possono avere solo da quelle parti. Ma vi assicuro, non lo faccio per rimediare a quello che non devo rimediare, perché sono, come dire, non rinnego nulla, come direbbe Sua Eccellenza. No, non rinnego nulla, come sì, direbbe Sua Eccellenza. Però questa è io la voglio risentire, perché circola ormai da ieri in maniera incessante, me ne hanno mandate 200. Questo qua si inventa l'esistenza di, cioè si inventa che cosa? Di essere di quello che affitta il cinese per scacciare la gente dalle file, per non fare la fila dai ristoranti, poi non si capisce perché. Comunque, da un ristorante affollato, metti che voi trovate un ristorante affollato, volete cacciare via la gente e mangiare in pace, ti prendi un cinese che tossisce e te lo porti dentro. Ma questa è pura genialità. Senti. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli. Gennaro a Forcella, Fitto Cinese Catus. Per non fai fila e fila a posta agli uffici pubblici, o cinese costa 15 euro. O cinese Catus. Se uno vuole stare libero in metropolitana, in pullman, o cinese costa 50 euro. Se uno trova il ristorante affollato, o cinese costa 70 euro. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli, o cinese Catus, a vostra disposizione. Dai ragazzi, ma non è geniale o no sta roba? Ma De Vita, l'avevi sentita oggi o no sta storia? No, non l'avevo sentita. Ma che cazzo hai fatto oggi? Nulla. Oggi ho studiato. Ma non hai inventato un nuovo format sulla Cina in queste ore? No, oggi ho studiato il fondo pensione della solidarietà del Veneto. Un convegno che devo fare lunedì. Ho studiato tutto il dossier. Pensa che due palle di convegno. E ho dovuto studiare tutto. Ho studiato tutto. Dai, vai a cagare, dai. Ho studiato, che dovevo fare? Porro contro... Toc, toc! Senti. Toc, toc! Appunto. Ragazzi, non è ancora morto da un punto di vista statistico nessuno per questo virus. Sono morti 160-170 persone, ma meno di quanto muoiono per l'influenza in Italia. Meno di quelle. Io non so perché questa isteria collettiva con quell'altro che dice per tutti gli atti che sembrano alimentare allarmismo. Qua ci vorrebbe qualcuno che svegliasse e facesse toc toc. Sapete che c'è? C'è un'influenza. L'influenza, sta avvenendo l'influenza. Si muore più di morbillo, è più contagioso il morbillo di questa roba qua. Caro Porro, però devo dirti una cosa. Io voglio fortemente fare questo gemellaggio zuppa di Porro Zanzara. Andate sempre ad ascoltare questa meravigliosa zuppa di Porro la mattina. All'insegna della qualità. Però, appunto, devi aggiustare il microfono, amico mio. Certo. Aggiusta sto cazzo di microfono. Sei dotato di risorse economiche. Sì. Costa 20 euro. Non sei povero in canna, povero in canna. Questo si può dire. Adesso c'è il tuo amico Rinaldi che esulta per la Brexit. Ma se l'hai comprato in realtà l'altro giorno ha fatto una zuppa di Porro. Lui ha fatto vedere che su Amazon gli è arrivato questo pacco. Però era a St. Moritz, ti racconto perché io lo seguo sempre. Era a St. Moritz, ha detto: salve amici da St. Moritz, ma rimattina vado a sciare. E lì con il suo cashmere meraviglioso, 5 fili, altro che il mio, 5 fili di cashmere. Era lì: ciao amici da St. Moritz, allora domani mattina vado a sciare. Mi è arrivato qui attraverso Amazon due fattorini, due, mi hanno portato questo microfono per fare le nostre zuppe di Porro. Ora vi saluto perché c'ho un cocktail. Ora vi saluto perché ho un cocktail sulla neve. Ci vediamo domani. Però non si sente un cazzo. Grandissimo. Toc toc toc toc toc toc. Esatto. Allora il tuo amico Rinaldi, la sovranità è del popolo. No. Senti, vabbè, questo sì è vero, esultando per la Brexit inglese. Senti, Il problema è che hanno esercitato il sacrosanto diritto, perché la più grande conquista del genere umano è aver attribuito la sovranità al popolo. Certo, il popolo del Regno Unito lo ha perfettamente incarnato questo principio. Abbiamo detto Ursula von der Leyen con sto nome del cazzo. Io sono Rinaldi, il professore di economia, e dico anche sti gran cazzi. Aspetta. Dai, incredibile. Piuttosto credo che la storia sarà estremamente severa nei confronti di Barnier, che è stato il peggiore, dei negoziatori possibili. Vabbè. Nel 2016 disse: sarei riuscito nel mio compito se alla fine l'accordo fosse così duro con gli inglesi che preferiranno rimanere nella Unione Europea. Spero che un giorno si vergogni e chieda scusa per queste affermazioni. Grazie. Ha difeso l'Europa. Zitto. God save the Queen. Ha chiuso così. Vabbè. God save the Queen. Capito? Grazie. Angelo, provincia di Milano. Vai. Comunque mi segnalano che Burioni dice che la mortalità è altissima statisticamente. Angelo, provincia di Milano. Me lo scrive il grande Milan. Burioni dice che la mortalità è altissima statisticamente. Andatevelo a leggere da qualche altra parte. Angelo, provincia di Milano. Siccome Porra va detto che dai un'influenza così. Dai, Angelo, provincia di Milano. Volevo riprendere il discorso. Quello iniziale del locale che ha messo il cartello per non far entrare i cinesi. Ecco, volevo dire che la paura non è sua, la paura è dei clienti. Sì. Cioè, i clienti, se vedono un cinese dentro, non entrano. Ma chi te l'ha detto? Ma è una cazzata questa. Ma come è una cazzata? Ma vi dimostrerò tra poco che è una cazzata. Io se vedo lei non entro. La fobia del io se vedo Rinaldi non entro. Se vedo Rinaldi non entro, ad esempio. Pensa a te. Se io vedo Rinaldi non entro. Ma tu hai paura dei cinesi? Tu hai paura che fa lo scemo. Io ho un locale. Hai paura dei cinesi? No, ti posso garantire che. Ma tu hai paura dei cinesi? Io no, io. E allora basta. E allora? Ma è scoppiata l'epidemia dei cinesi, cioè la gente ha paura dei cinesi. Sono stati. Ma che i tuoi clienti hanno paura dei cinesi? No, i miei clienti hanno paura di uscire di casa, purtroppo, perché hanno lanciato. Dove hanno paura? Io lunedì mangerò in diretta qui in Montina Primavera. Ah, questo l'ha già fatto con un crollo dei locali che non avete idea. A Milano c'è stato un crollo lo so benissimo. La Chinatown è deserta, ma anche i locali sono deserti. Perché sono deserti, no? Ma bisognerebbe andarci assolutamente. Io ci vado spessissimo a mangiare cinese lì. Ci sono stato anche nei giorni scorsi e ci andrò. Poco. Tu vai anche. Anche se Parenzo fa il pirla, questa è la realtà. Ma male, bisogna dire che non ha senso avere paura di questa roba. Bisogna dirlo che non ha senso. Ma questo lo devono fare i mezzi. Non è che uno deve assecondare la follia. Hanno distribuito paura in giro E adesso cosa si fa? La gente si spaventa. Andrea, cioè, da Cuno, lo... grazie Angelo. Andrea da Cuno, vai. Andrea, dimmi. Sì, ciao, ciao, pronto, mi sentite? Sì, dimmi, dimmi. Sì, no, volevo tornare al discorso di prima, proprio collegandomi all'attentissimo dottor Parenzio, che c'era sempre qui sopra mistico. Dimmi, dimmi, dimmi. No, ma perché? Ma come mai trovo questo silenzio così ipocrita nei confronti del regime cinese che oscura internet, distrugge le minoranze musulmane? Non il ho Tibet, mai sentito niente. Il Tibet, come no? No, il Tibet, gli uguri. Vabbè, certo. Questo silenzio? Se ad esempio, quale silenzio? Con tutti, invece quei cinesi solo perché hanno il potere economico. Ma io, ma quale potere economico? A me sembra che il governo cinese sia stato criminale in questa gestione, mi pare. Da quello che ho visto, vabbè, in questa allora, gestione che vuoi dire della pandemia, cioè, stiamo sempre a pontificare su Trump, sull'Inghilterra, su Salvini. Davanti ai cinesi abbassiamo tutti la testa perché dobbiamo vendere ai milioni, dobbiamo stare zitti. Questi distruggono il mondo, distruggono gli animali, li mangiano vivi, e non possiamo dire niente. Cioè, tu dici che alla fine è colpa loro perché fanno delle schifezze terribili e ce le propagano. Ma io non sono un biologo, non sono un dottore, ma se ti mangi io gli animali vivi, se li stanno sotterrati, no, magari vivi con le non c'è trane, dubbio. Non c'è dubbio. Mondo, ho capito, tale. Però amico mio, non è che non c'è nessun tipo di prova che ancora di come sia nata questa ma cosa. Piccolo, alcuni dicono per come trattano gli animali, per il cibo, ma non c'è no, una. Hanno capito dove l'hanno isolato. Il coronavirus è presente. Hanno individuato cani, il mercato. Hanno individuato il mercato. Vabbè, Maurizio da Roma, vai. Maurizio da Roma, vai. Maurizio. Io sono ascoltatore silenzioso. Volevo solo farvi una domanda a voi. Voi che ne pensate di questo virus? Secondo voi, che è ma che ne so da, io? Ma perché mi fai serpente? Questa domanda? Ma chiedilo a Burioni, ma che me lo dal chiedi serpente. A me? Non lo so, no, cioè l'hanno isolato in un mercato, sì, dove c'era. Sì, c'è scritto sui giornali. No, cioè, ma voi ci credete? Non è che... E perché invece tu a cosa credi? I poteri forti. Ma io domanda a voi se sarà. Ma tu a cosa credi? Sarà un complotto, chiaramente. Io sto chiedendo a voi. Ma tu a cosa credi invece? Io a niente, non credo a niente. Volevo sapere voi che ne pensate, che siete degli elementi più... No, non siamo nessuno, noi siamo dei poveri stronzi come te, non ti preoccupare. Ah, ok, sì, ok, allora siamo in quattro. Siamo in quattro, siamo quattro poveri stronzi. Mauro da Napoli, ciao, dai, ciao. Mauro da Napoli. Ciao, buonasera Cruciani. Dimmi. Finalmente dopo l'esplodere il mio concittadino, hai parlato bene di un napoletano e della generalità, complimenti. Ma io non parlo bene di popolazioni interne né male, non me ne frega niente. Tu sei Mauro da Napoli. Ok. Ti volevo dire un'altra cosa, io volevo riportare al discorso dell'altra sera che si parlava delle dichiarazioni di Fontana e il nostro caro Parenzo è uscito fuori da cancro come al solito. Perché no? diceva Fontana, il governatore della Lombardia, che hanno portato a votare pure i disabili, eccetera. Allora... No, ma portare a votare i disabili è un diritto di sempre. Non certo. È che hai comuni, allora, che vuoi dire? In mente solo dunque... queste ultime elezioni che avevano paura di perdere. Io ho fatto il rappresentante di lista allora che vuoi dire? Anni. E quindi loro hanno questo tipo di organizzazione, non solo i disabili, ma dopo 70 anni di potere, la ASO, le banche, anche sono tutti in mano a quel partito. Questo e sicuramente. Prendono la gente casa per casa leggendo le liste di quella che devono questo votare. Adesso, che vuol dire prendono la gente casa per casa? Non è che c'è stata la deportazione. Io con le mie mani ho chiamato i carabinieri, vanno a leggere le liste delle persone che alle 5 non hanno ancora votato e gli mandano a casa a dire tu devi venire a votare perché dopo nel ma quando paese, è successo questo? Ma quando è successo? Siena, io quando abitavo 10 anni fa. Ah, 10 anni fa a Siena. Dunque in Emilia Romagna adesso tu. Abitava a Siena. Fermo là. Il suo motore aggredisce la strada così. E alla guida ci si rilassa così. Fuori c'è potenza. Dentro c'è classe. Nuovo Renault Koleos unisce lo spirito off-road alla classe di un SUV. A gennaio tuo da 389 euro al mese in caso di permuta rottamazione e con finanziamento. TAN 549, TAG 645, salvo approvazione fin Renault. Info presso la rete aderente su Renault.it. Prova il nuovo motore blu DCI 4x4 190 cavalli. Se sei un imprenditore o un libero professionista, Fatture in Cloud è il software che fa per te. Fatture in Cloud è molto più che fatture elettroniche e ti permette di gestire anche i preventivi, registrare gli acquisti, mandare i solleciti in automatico e molto altro, in qualunque situazione, anche dallo smartphone. E dando accesso al tuo commercialista, risparmi un mucchio di tempo. Registrati su fattureincloud.it. Ha un prezzo piccolo e in più è Team System. Provalo gratis e semplificati la vita. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Per i passaggi difficili della tua azienda, Studio Temporary Manager. leader italiano nella gestione d'impresa, seleziona e gestisce i migliori team di esperti. Dal check-up aziendale alla soluzione della crisi, per il miglioramento e rilancio della tua impresa. Studio Temporary Manager è a Verona, Milano e Roma. temporarymanager.info. La Zanzara. La politica mia è Gesù. You can't kill the metal. The metal will live on. God save the Queen. Grazie. Try to kill the metal. Al papà di questo ragazzo che mi spiace per lui, mi spiace per suo figlio, spero che migliorerà, se no suo figlio, per bene che vada, può andare a fare il parcheggiatore abusivo, per bene che gli vada. Ho rimesso apposta questa frase di Mughini perché voi capite, al di là delle speculazioni, delle cazzate scritte su molti siti napoletani oggi e non solo napoletani, che Mughini ha avuto un atteggiamento quasi affettuoso nei confronti del bambino, quasi affettuoso. Però caro David, se tu guardi dal monitor di servizio, molti che sono in macchina adesso non potranno vedere, e tu mi hai accusato prima di essere vicino a quelli che vogliono cacciare nei bar, che vogliono cacciare i cinesi, sì, figuriamoci, è normale mettere quei cartelli, è normale avere paura, non mettere i cartelli, però per farti capire che io non ho nessun pregiudizio, anzi al contrario. E i massaggiatori cinesi, le massaggiatrici, i centri massaggio cinesi stanno attraversando, come in questi giorni tutti gli esercenti cinesi, una crisi, perché la gente non ci va, perché ha delle paure assurde, anche se, certo, da un certo punto di vista comprensibili. Adesso io mi faccio fare un massaggio cinese, ma... mentre conduco qui. Fatto, ma... venire una gentile signora che è tutto qui. Tutto gratis, sempre, marchette. No. Com'è che si chiama questa ragazza? Com'è che si chiama? Aie. Si chiama Aie, eccola qui, la signorina Aie, che è qui presente, che fra poco mi farà un massaggio cinese. Gratis, cioè, ovviamente. Mi metterà, ho no, trovato pagherò il modo per farti fare una marchetta, ma che pagherò? Aspetta, ma mi metterà le mani addosso, mi metterà le mani, sarà vicino a me. Io vicino aggiungo a me. Poveretta. Non lo so, anche se poveretta o no. Ci sono dei lavori che gli italiani, dunque, si rifiutano di fare. Non abbiate bravo, paura, adesso voi la buttate sullo scherzo, ma ragazzi non è uno scherzo. Io non ti massaggerei mai. D'accordo, non bisogna avere paura di farsi fare i massaggi dalle cinesi, vero, o dai cinesi in questi bisogna giorni. Bisogna avere paura di fare un massaggio a te, chissà, esatto, cosa cazzo, mi metterei discorso i guanti, quelli ignifughi io per ma fare questo, un massaggio sono, a te, ti sarai lavato la settimana scorsa. Mi sono pulito apposta, adesso mi tolgo, okay, mi tolgo la camicia. Sì. La scena è anche di un corpo abbastanza decadente, insomma, sì, direi quasi faccio, glabro, non faccio, vede il sole da mesi. Mi faccio fare questo massaggio dalla signorina Collettina, una marchetta, una marchetta praticamente. Mauro da Varese, intanto. Pur di non pagare, Mauro, massaggio, vai Mauro. Io invidio quelli che sono in auto, non possono vedere questa scena. Non possono vedere questa scena di questa persona che si spiaggia sul lettino e si fa cospargere l'olio, non lo cosparga al capo, signora Ye, perché sulla testa l'olio c'è già, lo secernono direttamente. Ma sentiamo se è cinese, scusa, sentiamo se è cinese. Ah, yeah, certo, non parla manco italiano. Ma sentiamo che ci dica qualcosa in cinese. No, ma lei intanto non ha le cuffie, quindi non ti sente. E dopo poi parlerà. Sta spargendo dell'olio sulla schiena di Cruciani, che comunque non è la parte più sporca. Non è la parte più sporca della schiena del corpo. Ma è un uomo o una donna? Ma fate stare zitto Parenzo, per favore, invece di dire cazzate. No, Parenzo, non hai capito tecnicamente che la signora non ha la cuffia e quindi non può ascoltarti? Ma dategli la cuffia. Cazzo, sono 10 anni che fai radio, non hai ancora imparato un cazzo di questo mestiere. Ragazzi, state zitti, fate parlare l'ascoltatore, per favore. L'ascoltatore da Varese, cosa, per quale oscuro motivo ha chiamato? Ciao Davide, ciao Giuseppe, ciao Gottardo. Okay. Allora, l'ho già mandato in un vocale a Spezia l'altro giorno, l'altro giorno ero tra il Gottardo, per l'appunto, e Lucerna, in un autogrill, sì. E sull'autostrada che viene dalla Germania verso Italia e Francia ci sono tantissimi autobus di cinesi, ne sono arrivati 4 insieme, più di 200 persone sono entrate di colpo, e si sono spostati tutti i turisti europei e i lavoratori che erano in giro. Non ho capito chi è che si è spostato, aspetta. Vai giù, ma se non capisce l'italiano come fai a sapere? No, non capisce. Allora, io mi rilasso solo a vederla massaggiare. Non ho capito chi è che si è spostato, scusa, spiegami. Allora, ci sono tutti, come me, le persone che avevano il loro vassoietto, stavano pranzando, chi bevendo il caffè, a vedere 200 cinesi che erano di colpo, tra l'altro evidentemente turisti che arrivavano da un aeroporto o qualcosa del genere, hanno preso i loro vassoietti e sono spostati tutti il più periferico possibile alla grande sala. Questa è la verità. Io sono una persona che gira il mondo, non ho paura, non sono assolutamente uno di quei pazzi che ti sei spostato anche tu, non ti sei spostato anche tu. No, io ero nell'angolo, però mi sarei spostato perché la paura un po' ti. Ma togliamo lo asciugamano, possiamo rimanere anche mutande, tanto non è proprio. Che scena orripilante. No, infatti guarda, fortunato lei che è. Ma da che regione della Cina viene questa persona che sta che palle, questo palle, questo. Sapere, chiamate un altro ascoltatore. Ma almeno questo si può sapere, da quale area viene della Cina, da quale regione? Ha un espresso. Edoardo, da dove? Edoardo? Torino. Dimmi, Edoardo. Dimmi. Senti una cosa, ma allora devo darti ragione sulla questione Red Ronnie e Sanremo. Cioè, sì. Allora io ti dico, io lavoro con i ragazzi in un'associazione, abbiamo una community enorme in Italia di studenti, eccetera. Abbiamo appena fatto un lavoro sulla trap. Allora, ieri Red Ronnie mi ha detto che dalla trap si arriva all'ISIS. Cioè, a un certo punto ha fatto un pranzo. Non ha detto che si arriva all'ISIS. Ha fatto una roba che in questo libro si diceva. Allora, cioè, i ragazzi. E diventano violenti per quello che vedono in casa, cioè non per quello che vedono su YouTube. Oppure quando vedono Red Ronnie anche diventano violenti, giustamente. Può essere anche quello, può voglio essere, dire, no? Allora, che Red Ronnie non è Fedez, cioè non è l'idolo di chissà quale masse, voglio dire. Cioè, io no, veramente, ma ve lo dico, cioè io ho appena fatto un lavoro con dei ragazzi sui testi di Massimo Pericolo, che dice di tutto, e allora? Cioè da droga e tutto quanto, e ovviamente dicono, capiamo la periferia, cioè mette in luce una cosa ed è più appunto la voce di un momento che è un idolo, cioè non è un idolo che ti dice, cazzo lo faccio anch'io, ma di che parliamo? Ma quanto costa il messaggio della cinese? Musica, no, io non ho capito una cosa. Da chi stai tu? Dalla parte di Red Ronnie? Riduciamo la cosa. Ma Red Ronnie sostiene che Junior Cali faccia effettivamente. Che sia effettivamente un idolo e possa effettivamente rendere ragazzi violenti. Ma ti è mai scivolata l'idea che a Red Ronnie di quello che pensa poi la gente non gliene freghi assolutamente un cazzo? Perché è una delle ipotesi sul campo. Quale altra radio nazionale aveva invitato Red Ronnie prima di questo programma? Non dire stronzate. Mi risveglio dal massaggio quando sento la cazzata di Gottardo. Red Ronnie è una persona molto apprezzata nel mondo della musica. Negli anni 90 sicuramente. Ma non dire cazzate. Anche oggi. Ma uno poi dà la colpa alla musica quando i problemi sono in casa, cioè nel senso non è che uno diventa violento perché vede uno in televisione. Però ha fatto bene a tirare fuori, la questione. Io sono dell'idea però di questo ascoltatore che anche se tu vai a vedere tutte le. Aspetta un attimo, più giù. No, qua, proprio schiavismo grazie, puro. Grazie. Perché non verrà pagata questa persona. Voglio vedere quando la paghi. Voglio che. No, ma tutto questo, ragazzi, questa ragazza qua mi sta facendo questo straordinario massaggio perché pare che sia molto brava. Per un motivo molto semplice. Perché bisogna tornare immediatamente a frequentare, se volete, naturalmente, i massaggiatori cinesi. E non ha la mascherina, cinesi. Non ha la mascherina. Ma certo avrebbe che no. Dovuto indossarla massaggiando te, effettivamente, la mascherina. Però, ragazzi, tornate nei massaggi cinesi. Se volete, vi dico anche a fare altre cose, però non è questo il caso. Tornate nei massaggi cinesi perché non c'è nessun pericolo. Guarda non con che maestria agisce sulla zona lombare di Cruciani. Vicino al gluteo. E si vedono tutte queste masse informi che poi si muovono. Sì. È più grasso di quello che sembra Cruciani da nudo. È la prima e spero ultima volta che ti vedo ancora? Nudo. Chi c'è ancora? Chiamatemi un altro ascoltatore. Chi c'è? Chi c'è, ragazzi? Chi c'è? Oh! Chi c'è? Siamo tutti ammaliati dal. Francesco da Roma, vai. Pronto. Dimmi, Francesco, dimmi. Oh, ciao Giuseppe, scusa, è una scappa da loro. Dimmi. No, volevo raccontare una cosa che mi è successa all'estero con una ragazza ebrea. Sono stato discriminato. Mi hanno trattato male, insomma. È talmente fake che non riesce neanche a raccontarla all'estero. Cosa vuol dire all'estero? Ma che data? Che sono io? Sei un fake totale. Ma racconta all'estero dove? Che paese? Quando? La ragazza quanti anni aveva? C'è nel 2005, 21 anni. Io ne avevo 25. E sei stato discriminato perché evidentemente si sarà resa conto che sei un cretino. Ma da chi? Riconosco, ma come vabbè, da chi è stato discriminato? Questo non lo credo. Ma che è successo, Francesco? Dimmi. Era una ragazza ebrea, sì. Poi l'ho rivista a New York, io ho i parenti, e ero innamorato, visto che loro avevano un tenore di vita differente dal mio, sì. Io abito a Roma, abito a Manhattan, non sono stato accettato in famiglia. Vabbè, ma chi se ne frega dalla, però? Dalla religione. Ma chi se ne frega? Ma perché ci dovremmo interessare della tua storia? Non ho capito, perché? Perché sono razzisti, perché sono ma razzisti. Ma chi è razzista? Ma chi? Gli ebrei, a volte sono razzisti. Ma che vuol dire a volte sono razzisti? Io solo a sentirlo parlare... Se io, se io in base al mio status, al mio, a quello che io ho, i miei soldi, uno perché dovrebbe credere a questa stupidaggine? Perché uno dovrebbe credere? No, a questa... Ma ti faccio un WhatsApp e ti mandi passaporto. Ma io non sono ebreo, lo discriminerei anch'io. Ma guarda che me la sono vista anche brutta, eh. Non ci siamo capiti. T'hanno mandato il Mossad a casa. Va bene, Roberto da Brescia, vai, da Brescia, un altro da Brescia, no. Roberto da Brescia, vai Roberto, dimmi. Dimmi. Ciao, buonasera. Ascolta, io volevo fare una piccola riflessione. Molto molto veloce. Ma tu li fai i massaggi? Li fai i massaggi, amico mio? Ah. Li fai i massaggi dai cinesi o no? Ogni tanto? Io? Ci vai nei massaggi? No. Non ci vai mai? Quando... No, viene di massima no. Aiesta sta premendo sulla parte dorsale di questo corpo un po' flaccido di Cruciani. Il mio flaccido, tu non parla, vedo le onde di pelle. Ma che due guarda... parole in cinese, facciamogliele dire per far capire che è cinese veramente. No, ma non altrimenti... serve, lei lavora con le mani, non deve parlare. Esatto, bravo, bravo. In qualche maniera, però, quindi vedi non che è poi cinese. La pelle ormai in rilascio della schiena di Cruciani è completamente bianco, sembra un petto di tacchino, sai quello che compri in offerta all'essere lunga? Sì, sì, sì, ragazzi, la realtà... Ma potrebbe battere effettivamente Roberto per renderlo Brescia, dai, un po' più tonico. Roberto, dai, sarò molto breve. Allora, no, piccola riflessione, secondo me può diventare anche in futuro molto facile creare dei virus e diffonderli avendo la possibilità di creare dei vaccini che potrebbero essere potenzialmente dei guadagni enormi. Ah, è un complotto, è un complotto. È come l'AIDS, no? Anche l'AIDS dicevano fosse un complotto della stessa portata. Guarda, e da quello che ho sentito, diffondere un virus... Ma precisamente al bar... Neanche il governo cinese ne parla, dove l'ha sentito? Al bar, dopo la partita di calcetto? La fonte, dove non esiste. Su internet? La tua parte... Io non sono uno scienziato. E si era capito. E questo si era capito. No, questo non è sono chiaro. Uno scienziato come sei te, come tutti sanno, no? Che sei uno scienziato. Però la riflessione, quindi non ho fatto un trattato, ho detto una riflessione, che è quello che si sentiva che potrebbe essere uscito da un laboratorio. Si sentiva. Allora... Ma poi pensi che stronzi i cinesi hanno dei virus molto mortali e questo c'ha il 3% dei contagiati solo di morte. La polmonite fa più paura, il vaiolo è peggio e questi mandano fuori un virus burletta. Parlare perché mi sembra che sia abbastanza a sproposito. Ah beh, sì, certo. Se io ho un virus e ho la possibilità di diffondere un virus e poi cinicamente ho già il vaccino pronto per diffondere a livello mondiale, stanno perdendo decine di punti di PIL questi qua per cosa? Ma non è questione di PIL, se io sono una società potenzialmente mi sta massaggiando una chiappa adesso, non me ne frega niente, è una società privata che crea un laboratorio che me frega a me del PIL della Cina. Guardi, mentre lei parla del PIL della Cina, io ho la chiappa di Cruciani davanti che fa un movimento rotatorio tra le due mani, direi vigorose, della massaggiatrice cinese. Allora, fermi tutti, vai la corte, vai la corte, vai. Allora, devo ringraziare innanzitutto Aie perché mi sta facendo un massaggio fantastico. A questo punto deve farlo anche prostatico, però. Non abbiate portiamo non abbiate... fino in fondo questo farle massaggio. Farle salutare, farle sentire la voce, almeno ma ciao, perché questo buongiorno, ma perché rompe i coglioni? Falle almeno minuti. Parlare, si chiama radio, falle almeno sentire una parola, falle dire una parola, un suono, un timbro della voce. Allora, intanto Paolo Mocavero, eccolo qui, Mocavero, ci sei? Ciao a tutti, buona serata a tutti, sono qua. Io 100% animalisti. Io spero per Paolo Mocavero che non stia vedendo quello che sta avvenendo in questo sciagurato. No, lo sto guardando invece. Mai visto che grosso che è diventato Cruciani da quando non parla? Basta che non diventi come me, dai. Ma così che dici? Avrò preso 2-3 kg, ma fa culo. Ma non Arezzo ti saluta Ciretto, l'ho sentito prima, ha detto di salutarti. Grande avvocato Ciretto, molto bene. La rubrica di cazzi vostri, molto bene. Ho detto a Marco che lo salutavo. Grande avvocato. Allora, bravo. Io voglio capire una cosa. L'altro giorno, Paolo, io ho visto in Sardegna il funerale, mi sono anche commosso, il funerale di un ragazzo di 32 anni, un cacciatore morto durante una battuta di caccia, con i parenti che si commuovevano, che piangevano, una tragedia, eccetera. Ora, il fatto che tu, scusami, aspetta, mi abbasso un attimo, il fatto che tu possa immaginare, io, di esultare, cioè il solo fatto che io ti vedo esultare o gioire per la morte di un cacciatore è una cosa che mi fa orrore, che mi fa orrore, mi fa schifo. Ho capito, ma è la tua opinione, io la rispetto, per l'amor di Dio. Ma, okay, ma come fai a stappare lo champagne ogni volta che muore un cacciatore? Ho pensato subito a te, mi fa orrore questa cosa, mi fa schifo. Mi fa piacere che hai pensato a me, quindi vuol dire che in quello che faccio, bene o male, ti colpisco, quindi è già un vantaggio a mio appunto. Ma no, vantaggio. È un orrore il fatto che tu... Ah, no, è un orrore vederti far massaggiare qui in questo studio, questo è il vero orrore. Scusami una cosa, tu ogni volta che muore un cacciatore, per te una persona di meno che se ne va, un assassino di meno che se ne va? Ma vedi, è qua che non riesce a capire, forse ho il mio, diciamo, modo di fare che non mi faccio capire a sto punto. Io non è che sono contento, perché quando muore un cacciatore è una persona in meno che fa del male agli animali, appunto. È semplice. Appunto. E dunque stappi lo champagne o hai smesso di stappare lo champagne perché te la fai sotto? Perché te la fai sotto? In che senso me la faccio sotto? Che cazzo ne so, hai avuto denuncia o cosa? Perché? E chi se ne frega delle denunce? Continui a stappare lo champagne o no? Fai la persona seria, perché tu sai benissimo che me ne sbatto le palle se muore un cacciatore. Non dire stronzate, io sono contento, quindi non dire cagate. Dunque sei contento? Sua può fare quello che gli pare, che sua. Ai processi ci vado ed è che sei contento, non è vero che ci vai ai processi, quello con Roberto Baggio, Bocca, cosa stai dicendo? Quello con Roberto Baggio sei scappato come un coniglio, c'era Baggio che era lì che ti aspettava e non ti sei mai presentato di fronte al divin Codino. Mi fate parlare o no? Se no, se fate, dai. I tre faccio fatica a tenervi botta, se parlate insieme, cazzo, dai. Allora? Tu sai benissimo, meglio di me, a parte che io sto al foglio di via Pado, quindi anche volendo dovrei chiedere un permesso per presentarmi in tribunale. Io alla mattina amo dormire. Se tu pensi che io vado a rompermi le balle a svegliarmi per vedere la faccia di Baggio, hai sbagliato. E se ci sono o non ci sono in un tribunale, se tu conosci la legge come tu sai, la conosci benissimo, dovrebbero darti un aggravio di pena. Però scusami, non sono obbligato a mandare. Però scusami, al di là del processo, scusami Paolo, e sai che le stai dicendo. Paolo, scusami, fai una persona brava. Al di là del fatto che tu vai o no in tribunale, ora tra Baggio, voglio dire, mi arriva alle palle, dai, con tutto rispetto. Che vuol dire che ti arriva alle palle, Baggio? No, nel senso, non è che faccia sto gran timore a vederlo, ecco questo discorso. Cioè, nel senso, ti metti a fare botte con Baggio, vinci tu sicuramente. Ascolta, o mi mettete robe che volete voi in bocca o se non parliamo più, allora io tra un cacciatore, siccome Codardo mi ha rifacciato delle cose, ho spiegato perché non sono ti chiedo una cosa, tra un cacciatore, questa scena qua, un cacciatore attraversa la strada, ok? Sì. E col fucile in mano, sì. Tu passi con la macchina, che fai? Il problema è che io dimmi la verità, che fai? Te lo sto dicendo, sì. Probabilmente in quel caso lì mi tolgo gli occhiali. In che senso? Perché tu non ci vedi senza occhiali? No, era la battuta, nel senso che lo tiro sotto, chiaro, no? Faccio finta di non vederlo. Fai finta di non vederlo e tiri dritto. Chiaro. Ce lo metti sotto? Se ho la possibilità, lo chi lo sa, non lo so. No, ma l'hai detto. Ti togli, come c'è l'assicurazione? Se lo tiro sotto? È un reato. Lo tiro sotto, se so che magari sta una lepre sul borsone, lo tiro sotto, dopo dico non l'ho visto, pazienza, ma è un reato. Scusami, in galera non ci vanno neanche quelli che ammazzano le persone per davvero, imbriati, spolti. Ma è un reato, come si fa a dire una roba simile? Quindi vale meno la vita di una lepre che quella di un cacciatore magari padre di famiglia. No, sbagli Alberto, per me la vita del cacciatore non vale proprio un cazzo, è diverso, la vita della lepre è il numero uno, un cacciatore non vale una tega, è diverso il discorso. Sul ciglio di un burrone c'è una lepre, è un orrore, sul ciglio di un burrone c'è un cacciatore è una lepre. Vuol dire, puoi salvare solamente uno dei due, che fai? La lepre fa 100.000 volte, la stai scherzando. E dunque faccio morire un uomo di merda, è diverso il discorso, capito? Faccio morire un uomo di merda. Io so che voi volete provocare, eccetera, però io non sarò mai quello che nasconde quello che dice. Sì, il cacciatore è un uomo di merda. Quelli che attaccano le epigrafi come avete fatto voi a Vicenza, gioendo della morte di 32 persone. È una goliardata. Prima di mollare, devo chiedere una cosa a te, ma è molto. Non potrei mai mettermi in difficoltà come mi sta mettendo in difficoltà a vedere la schiena di Cruciani e le natiche massaggiate da una cinese. Alberto, non ti voglio mettere è una scena incredibile. È una cosa che penso gradirai, dai, forza, su. Vabbè, comunque, scusa, come consideri, no, scusate, fermi un attimo, come consideri Berlato, il leader dei cacciatori, diciamo, veneti? Ah, Berlato per me è una persona trafurba, è il numero no, uno. No, ma come Berlato lo consideri? Come lo dentro di te, come lo consideri? Il consigliere se non fossimo in radio, se non fossimo in radio, Berlato come cacciatore, anche se mi correrà me le sbatto le palle, come cacciatore, non come uomo, come cacciatore è un uomo di merda. Ecco. Problemi? Ma che vuol dire come cacciatore? Problemi. Lo consideri un uomo di merda tu cur, non come cacciatore? Come? No, no, qua ma tu sei un paraculo, no, però. Ma scusa, anche tu dici cazzate. Senti, ma la Cina, questo, la Cina, la Cina, no, voglio sapere da te, animalista al 100%, sì, animalista sì, puro, cosa pensi della questione cinese? Cioè, se dimmi. No, ma lì è un problema che purtroppo, sai, la manca spesso e volentieri, qua c'è una signorina che ti sta massaggiando e te lo potrà confermare, c'è un po' di onestà intellettuale. Loro purtroppo a volte hanno mancanze di igiene. Beh, questo come Cruciani, anche Cruciani le ha le mancanze di igiene. Sì, no, con gli animali. Ah. E quindi succede questo, può scoppiare un virus, questo qua è una coppia che scoppiare anche dall'altra parte, comunque non è per forza, però diciamo che in Cina sono un po' più grossolani nel trattare gli animali, ti va bene questo termine? Senti, ma io mi sono fatto di recente una pelliccia di visone. Cassi tuoi, beato te, cazzo. Mi sono fatto regalare una pelliccia di visone. Cattivo gusto. Se l'è fatta gusto regalare, dai, sottolineiamo. Dai, non ha pagato neanche quella. No. Mi sono allora, Cruciani, non ho capito che c'è da rompere i coglioni con le pellicce. Con le pellicce di visone, spiegami. Che c'è da rompere i coglioni con le pellicce. Allora, ma io ho capito che tu fai la tua parte, certo. Però no, io ci credo. Io ti voglio vedere con la pelliccia di visone. Ti giuro su Dio, vorrei vederti. Farti vedere, ma non che non farti vedere nel senso come una minaccia, assolutamente, no, proprio vedere la cartolina. Ma neanche i russi, ormai le mettono più, dai. Ma scusa, non ho capito, ma tu una donna che indossa la pelliccia, come la consideri? Una minorata mentale? Ma non ci sono più donne che portano pelliccia. Ma è una persona insensibile, finito il discorso. Ah. Ma di questi tempi non esiste più, dai, porca troia, dai, su. Cioè, Sebastiano Barisoni che scuote il capo e guarda anche un po' schifato. Senti, ma tu fai questa scena di Cruciani massaggiato. Tu sei pronto? Sei pronto a uno scontro fisico con i cacciatori? Cioè, alla fine, se tu li consideri degli assassini, se tu li consideri veramente degli assassini, questi cacciatori, degli uomini di merda assassini, vabbè, perché sono uomo di me, okay, perché sono uomini di merda. No, prima. Va benissimo. Se tu li consideri così, li consideri anche degli assassini, della gente che li considero come assassini, No, assassini, gente che ammazza altri esseri umani. No, gente... vedi, non hai le palle, ripeto quello che ho detto, no, li considero assassini e uomini di merda. Assassini e uomini di merda, li consideri così. Consideri così, dovresti affrontarli a viso aperto, per te dovrebbero scomparire dalla faccia della terra. Anche dove sono? Cioè, tu fai a botte di continuo con i cacciatori? Non è che faccio a botte di continuo, se ne trovo uno che mi ammazza un animale sotto il naso, è chiaro che gli fico il cioè, ci vuole la violenza, ci vuole la violenza fisica con i cacciatori, secondo te? Ma perché loro quando ammazzano gli animali cosa fanno? No, ma secondo te le macchine vanno, cioè le ruote delle macchine vanno bucate, bisogna fare delle operazioni di questo tipo, cioè bisogna aggredirli fisicamente i cacciatori? I cacciatori sono uomini di merda e come tali vanno trattati. E dunque vanno ci vuole la violenza fisica? Si ripaga la stessa violenza che fanno loro agli animali cutanei. È inutile che tu continui a tirarmi a tuo nostro discorso. I cacciatori sono violenti o no? Rispondi a questa domanda. No. Amano la natura più di te. Amano gli animali, la natura più di te. Più di te. Io vedo che Gottardo e Parenzo... Ma noi siamo annichiliti dal fatto di vedere, una persona che allora, massaggia le chiappe. Grazie. Ciao, no, Mocavero. Una cosa con Gottardo, cazzo. Che devi dire? Dimmi. Che cazzo, la roba più importante. Dimmi. No. Allora, cosa devi dire? Una volta è successo che a Gottardo ho fatto inconsapevolmente una battutaccia radiofonica. Vabbè, ma ti ricordi ancora cose vecchie? Però un conto. No, ragazzi, roba vecchia. Ve la spiegate tra di voi. Dimmi, un secondo. Dimmi. È importante, porca troia. Lasciami parlare un attimo. Veloce. Ad Alberto Gottardo feci le scuse via telefono, quindi le scuse le ha sentite solo lui. Ma volevo scusarmi pubblicamente. Ci sono cose più importanti. C'è Barisoni in regia che sta chiudendo la trasmissione. Questo è ragione. Vai a fare il culo, Mocavero. Ciao. Ma c'è Barisoni. La Zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io è l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. All'abbiato, guarda di mia collo. da Donald Trump. Mamma mia, mamma mia, Donald Trump. Mamma mia, mamma mia, Donald Trump. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Quella Martani non a caso è così, abbiamo capito. Non scopa mai, non scopa mai, fatalità, non scopa mai. Non scopa mai, non si fa neanche i ditalini, per forza. È incazzata sempre col mondo, ogni volta, in quelle maniere lì. Per forza, non scopa mai, mai, cazzo. Comunque... più io sento la Martani che dice che non le interessa il sesso, e più mi arrappo da morire. Vai dire. Pippe. Allora ragazzi, reduce da questo meraviglioso massaggio. Ma dove è finita la cinese? Ecco, sta qua, Aie, ciao Aie, grazie. Ciao. Sentiamola. Grazie, grazie. Come si ciao? Chiama Aie, parla un po' di cinese. Come... sentiamo un po' di cinese, in cinese. Che vuol dire? Sono cinese. Da dove vieni? Da quale città vieni? Wuhan. Non vieni da Wuhan, no. Da quale città vieni? Da quale città? Wuhan. No. Senti, Liaoning è al nord. Ma ha detto che ma perché non parla italiano ancora? Ma perché non parla italiano? Parla poco italiano. Parla poco italiano. Ma da quanto tempo è in Italia, cara? Da quanto tempo sei in Italia? Tu giovane italiano. 5 anni. Cinque anni, però amica mia, si potrebbero fare delle... Quanti anni ha lei, signora? Soprattutto signora, non si chiede. Signora Ye, quanto costerebbe il massaggio che ha appena fatto a Cruciani? Ecco, sì, giusto. Grazie. 100. 100 euro, 100 euro, euro, okay. Mezz'ora 100 euro, ma che e daglieli però, cioè, mezz'ora 100 euro, ma no, ma siete malati di mente, ma gratis, scusa, ha detto massaggio una superstar e ci sono responsabili, una superstar, no, ma sai perché in realtà sarebbero 50, sì, ma siccome non ti hai rilavato da una settimana allora sarebbero solo 100. Va bene, grazie, vive i massaggi cinesi, ragazzi, non fate cazzate, non abbiate paura di puttanate pazzesche, dai. Alessio, provincia di Brescia, fermi tutti. Alessio, provincia di Brescia. Grazie a Ie, grazie, grazie mille. Sì, buonasera. Dimmi. Innanzitutto, ragazzi, comunque la schiena, grazie, la schiena me l'ha fatta rinascere. Ma poi la cazzata, ho capito. Poi, non no, in questa mezz'ora, poi adesso ma dopo, neanche una mancia dopo la pago, dato. Non ti preoccupare. Sì, sempre dopo, sempre dopo, la sempre dopo, volta. dopo. Posso dire una cosa, ragazzi? Vi posso dire una cosa? Ma con tutti i soldi che guadagni, dagli almeno 50 allora, no, euro. Adesso dopo glieli do, fermo. Ma, allora, dopo, ma che ne sai che non li ho già dati? Ma non gliele hai dati, ti conosciamo tutti. Allora, posso dirvi una cosa? Ho capito due cose. Primo, se una persona è in una situazione un po' costretta, come ero io nel lettino, e voi andate addosso alla carogna subito, certo, attaccate, sei perché grasso, in fondo ti odiamo, sei ingrassato, l'ha detto anche Marisoni, sei... l'ha detto anche Marisoni, ma che cazzo sei ingrassato. Allora, prima cosa, io credo la seconda di più al cosa vice direttore è che non sapete condurre, cioè non, no, siete in grado, non siete in grado, ma cosa vuoi dire, stai alla radio, non rompere il cazzo, non siete in grado di gestire gli ascoltatori, ti stavi facendo i cazzi tuoi, io mi stavo leggendo un documento sui fondi pensione, non si è mai quale fondi pensione, ma vai a fare in culo, stavi facendo di massaggiare i comodacci tuoi, io mi stavo leggendo un documento sui fondi pensione. E poi comunque ti perprime avere dimmi. Uno che si fa massaggiare davanti, no, beh, incredibile. Alessio, dai, dimmi. Sì, buonasera, intanto grazie mille per avermi concesso di parlare, tanto per essere Cruciani. Sì, però alza un po' sto volume, alza un po' sto volume, Alessio, dai. Sì, scusi, sono un cazzatore, come sì, dicevo, sì, e volevo rispondere al signore che diceva, insomma, inneggiava la morte di noi cacciatori. Sì, no, anche in maniera volevo piuttosto pensare... pesante, ha detto che non si fermerebbe, ah, sì, guardi, con la macchina non dico... si fermerebbe, vi metterebbe sotto, cavero, questo nuova, ha detto. Se non ricordo male, non lo so se l'hanno capito questi detto. Due invertebrati qui, che sono con uno da Roma e l'altro qui. Una roba pazzesca, no, guarda, pazzesca. Incapaci totalmente di gestire la situazione qui. Cioè io ero là ed ero totalmente a fare i comodi tuoi e io ero a leggermi il documento sui fondi pensione. Alessio dalla provincia di Brescia, dai. Non è una cosa nuova, assolutamente. Però ci tengo anche a spezzare una lanza. No, no, tu sei un cacciatore? Tu sei un cacciatore? Io sì, sono un cacciatore, sì, assolutamente. E faccio la stessa domanda. Scusi, signor cacciatore, ma se lei vede attraversare questo Paolo Mocavero di 100% animalisti fuori dalle strisce e lei sta passando con l'auto, cosa fa? Ma guardi, io sono dell'idea che uno nella vita, in una democrazia, in libertà, uno può fare quello che vuole. Ma ti pare che lo mette sotto? Ma ti pare che mette sotto? Frena. Ma non diciamo stronzate. Chi ha il porto d'armi? Allora, fermo là, aspetta, Veronica dalla provincia di Milano, fermo là, Veronica provincia di Milano. Fermo là e non andare via. Dimmi, chi sei, Veronica? Buonasera a tutti, sono Veronica, 100% animalista. Pure te sei uscita fuori adesso, Veronica, sì, 100% io, animalista. Allora, che cazzo vuoi? Ha parlato il tuo capo? Che tutti cosa che vuoi mi scrivono, non l'ha pagata, sempre la stessa storia. Prima di tutto. Comunque, come, scusa? Io capi non ne ho, condividiamo le stesse idee e gli stessi valori. Comunque. Signore intanto dovrebbe vergognarsi di dire posso darmi che cosa. Questo signore che c'è in collegamento. Alessio è un cacciatore che è regolarmente iscritto come cacciatore. Certo, ha il porto d'armi e dunque lui è nella legalità. Voi non credo che ogni tanto siete nella illegalità, perché quando andate a rompere i coglioni a qualcuno, e lo sa benissimo Mocavero perché tu lo conosci. Per cui, lo rivendica come anche lo consideri? Scusami, Veronica, tu come consideri Alessio dalla provincia di Brescia, l'animalista? Una merda. È un cacciatore, è un assassino, punto. Una roba da pazzi. Fine, ragazzi, basta. Questa guerra non finirà mai. No. Siete talmente comici perché vi fate veramente ridere, perché poi voi quando non avete argomenti intelligenti, okay? Non abbiamo, cioè invece tu non ce li stai parlando, non avete argomenti, per questo motivo non avete argomenti intelligenti. Siccome non avete argomenti intelligenti per la causa, ok, perché di animalismo e di empatia causa, voi ma noi non, nulla, non abbiamo, okay, nessuna causa cosa da difendere, noi al contrario parlare, di te, sì, certo che parlare, ti faccio venire, okay. Figurati se non ti faccio, quindi, venire, cosa succede? No, fammi spremere un no ma aspetta, quindi, un attimo, succede? Io ti dico, sì, semplicemente noi non abbiamo nessuna causa da difendere. Prego. Al contrario, non abbiamo alcuna causa da difendere, questo è il punto. E chi se ne frega, sto esprimendo un concetto, posso finire gentilmente? Sì, allora, dicendo, visto che di animali e di empatia non capite niente, ok, non avete argomenti intelligenti per quando si parla di animalismo, di conseguenza tu e chi c'è lì in studio continuate, sì, a fare le solite domande, cioè ma vuoi paragonare un essere umano a un coniglio, a un animale? Normale. Qui non è discorso, ma noi siamo, qui ma non noi è siamo discorso alla... di paragonare, qui è discorso del rispetto cosa? Per la vita. Cioè, sì, anche delle persone. Io sarò empatico con gli esseri umani prima ma che guarda, con i conigli, guarda, o no? Certo, assolutamente. E allora, ma lei gioisce quando muoiono i cacciatori? Posso segnalarti? Allora ti metti, butto giù sei tutto tu. Comunque ti butto giù un argomento. Tu lo sai che hai più diritti del tuo gatto o del tuo cane? Hai molti più diritti. E chi se ne frega? Tu lo sai che hai molti più diritti? Sì. No, ma esiste la carta dei diritti dell'animale. Esiste la carta dei diritti dell'animale. Questo c'ha ragione lei. Allora Veronica, tu hai molti più diritti di un gatto, di un animale, di una. Ma guarda che non mi stai spiegando nulla di nuovo. Benissimo. Hai molti più diritti. Ti sei fatto una domanda perché hai più diritti? Te la sei fatta la domanda? Sì ma o no? Io non ho bisogno di farmi una domanda. Se ma ti fai la domanda, dire, ti dai anche la risposta. La risposta è che è giusto mangiare gli animali. Quando avrai argomenti. Vabbè, intanto. E invece tu che dai altro, dell'assassino. Capisci? Invece tu e che dai della. Soltanto degli esempi brutti. Ma non dire stronzate, che non sai nulla, non sai. Sai chi era? Sai chi era Roger Scruton? Non lo conosci chi era? Tu lo sai chi è Roger Scruton, dato che la vuoi buttare sulla filosofia? Lo sai, non sai un cazzo! Non sai un cazzo! Nulla! Nulla! Nulla! Non sai niente! Non sai niente! Ma io li rispetto più di te! Gli animalisti sono un'altra cosa. Gli animali. quali sono una... ne sono... torniamo a urlare a queste merde, quello che fanno, questo è. Ma tu, Alessio, una persona come te non è una merda, è un essere umano che va a cacciare e ama la natura, probabilmente più di te. Non c'è dubbio. Diglielo in faccia sta matta, reagisci a sta matta. Uguale a questa persona qua, per piacere. Sei uguale, identico, anzi forse lui ama gli animali più di te. Sì, infatti li ama così tanto che li ammazza e se li mangia. Certo, anche come li ama. Certo, assolutamente. Questo è amare gli animali. Uno dei più grandi, uno dei più grandi gesti d'amore. Che hai preso sta pelliccia di merda. Vantati uno dei pure. Più gr- uno... Io mi nasconderei sotto alla coperta. No, te la sbatto pure davanti se ho l'occasione. Guarda, allora posso dirti una cosa. Posso dirti una cosa. Io penso, prego, mangiando gli animali, penso di amare gli animali molto più di te che non li mangi. Ma sicuramente. Sicuramente li amo. Io li amo, li adoro. Li adoro. Sicuramente ti piacciono, sicuramente. Certo, assolutamente. Vuoi, ti piacciono, Alessio, certo. Rispondi un attimo. Posso rispondere? Dimmi. Allora, attenzione, perché il cacciatore non odia l'animale, bensì lo rispetta, perché ogni abbattimento che viene effettuato porta cibo alla persona. Ma allo stesso tempo non è odio verso l'animale, perché io stesso ho un cane che tratto come fosse una persona, e se io vedo una persona che tira una pedata a un cane, meno male, sono io il primo che gli torno una ma pedata, certo, a ma certo, ragazzi. E quindi pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Quindi cosa vuoi, mongolino? Scusami, non mi ricordo come ti chiami. Alessio, cosa vuoi per questo? Il mongolino d'oro? Ma no, cioè, ecco, il mongolino d'oro, senti l'empatia di questa persona. Il mongolino d'oro. Le faccio i complimenti per l'empatia, signora Veronica. Di 100% animalisti. Pensi a lei e pensi alla sua coerenza. Appunto, lei mi ha parlato di empatia fino a 5 minuti fa e poi tira fuori queste frasi orrende. Non si vergogna un po'? No, sono vostre le frasi orrende. Sì, certo, si figura. Ciao. Gli animali e gli animalisti vanno rispettati. Gli animali vanno rispettati secondo le leggi che prevedono la caccia. Gli animalisti dipende cosa dicono. Io rispetto tutti, ma se tu dici una puttanata e secondo me ne dici a tonnellate, ti dico che sono stronzate. L'empatica Veronica. Ciao. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. Non è possibile che nel 2020 un rincoglionito possa definire orientamento sessuale la pedofilia. Ma volete mandare al manicomio quel deficiente? Allora ragazzi miei, abbiamo in collegamento dagli Stati Uniti, da una località probabilmente segreta, una showgirl italiana sposata a un militare americano che ha chiesto 5 milioni di dollari al governo americano per aver violato la sua privacy. Una storia complessa. Lei si chiama Michela Morellato. Ciao Michela. Ciao. Ma che ci fai se vinci? A parte che 5 milioni di dollari non li vinci, insomma. Però mettiamo che ne prendi uno. Che ci fai con sto milione di euro? Ma guarda, lo so che non ci crederai mai, però ho delle buone intenzioni. In che senso? A livello di fondazione per aiutare le persone, eccetera, eccetera. Ho delle belle idee. Innanzitutto vedremo. Sei diventata una nemica praticamente degli Stati Uniti. Ma tuo marito come fa? Vuole lasciare l'esercito americano, ho letto? Ma sì, ma questo era già da prima, perché è molto deluso su tutto quello che è successo tra di noi, insomma. Ma anche io sono delusa, perché sembra che sono una nemica, ma non sono una nemica. Io sto solo dando una mano a queste persone a sistemare le loro mele marce in casa. Ho capito, ma tu, amica mia, chattavi con un generale, è vero che dopo hanno diffuso il tuo nome, qualcuno ha diffuso il tuo nome su internet, eccetera, e per questo tu hai fatto causa. Ma ti sei messa a chattare in maniera anche un po' otto con un generale americano, capisci? Che... Ma sì, hai ragione, ma guarda, infatti io ho anche chiesto scusa per questo, questi sono affari miei a livello personale, ma quello che è successo dopo... Va oltre. Cioè, tu sei stata bullizzata. La tua accusa è che ti hanno bullizzato. Me ne hanno fatte di tutti i colori. Mi hanno denunciata per spionaggio, sì. Gli americani. Per siamo morellato spia. Dai, ma di che parliamo? Dai. Che ne sappiamo noi? Ah, ho capito, ma l'hanno fatto. Ma è un classico l'uso delle spie, l'uso delle donne sexy, diciamo, per la Matari. La Matari da Vicenza. Mi sembra evidente, no? Cioè, spesso si usano come trappole. Volevo ringraziarvi perché comunque la mia tecnica, in modo che non mi facciano fuori, è quella di continuare a parlare con tutti e con più persone possibili, perché se avete anche visto le vittime degli americani, molto spesso sono persone che non hanno mai parlato e poi li hanno fatti fuori, capito? Allora è meglio andare. Cioè, tu hai paura, non ho capito, tu hai paura, hai paura di essere fatta fuori? Potrebbe anche succedere, ma non ho paura perché... Però dici, potrebbe succedere, mi potrebbero far fuori. Se non resto viva, mi fanno fuori. No. L'amorellato è oggettivamente una gola profonda in questo caso. Senti, ma a proposito, scusa, tuo marito è riuscito a farsi un po' toccare nel sedere da te o no? Perché eravamo rimasti che tuo marito era piuttosto restio a farsi infilare anche le mani dietro, o no? Siamo ancora allo stesso punto, però sto lavorando. Non si fa titillare, E ancora no. Un po' teso. Infatti oggi anche a casa, non so perché qua, mi sono chiusa in camera per non farmi ascoltare, ma... E gli ho detto, adesso mi chiamano i ragazzi, e lui mi ha detto, ma scusa, ma parlerete delle mie misure? E gli faccio, non lo so, adesso vediamo cosa mi chiede. Le vogliamo ripetere le misure di tuo marito? Quanto ha? 20 centimetri? Quant'è? Di più? No, ho detto che è più di Rocco Siffredi. Sì, più di Rocco Siffredi. Come fa a dirlo, Michela? Lei avrebbe dovuto provare anche Rocco Siffredi per avere un corretto parametro. Non l'ho provato, ma l'ho visto in azione. L'ho visto in azione dal vivo, sì. Ah, l'ha visto in azione dal vivo, attenzione. Ma quando l'hai visto dal vivo? Lo saluto, ma io non l'ho provata. Quando è successa questa cosa? Quando è successo? È successo a Milano anni fa. È successo? Molto bravo, è stato un onore ma perché per me. Ma perché l'hai visto? Non ho capito, che situazione era? Ah, una situazione così amichevole tra amici. Ma come e poi amichevole? Ho... Che vuol dire tra amici? Uno esce la spada di carne tra amici, dice: guarda, ho un cotechino nelle mutande, splaff. Scusami un attimo che lo inserisco anche. Ma come mai lei non ha approfittato di tanta grazia di Dio, Michela? A parte, alla fine sono un po' timida. Comunque, sposata con il mio primo marito. Ah, eri sposata col primo marito. Te l'ho anche detto a mio primo marito, ero lì, ero onorata, cioè non ho fatto niente. È stata tutta la mia amica, santa donna. Tu vorresti fare sesso anale con i tuoi partner, purtroppo tuo marito non vuole, ma tu lo fai il sesso anale? Devo ammettere che siccome le misure di mio marito sono abbastanza importanti, non lo pratichi spesso? Sì, l'ho praticata, adesso non sta a pensare chissà che lo pratico tutti i giorni. Però tu dici, le misure di tuo marito in qualche modo sono un ostacolo. Legate forse anche a una certa irruenza, perché lì ci vuole anche un po' di tatto, Michela. Ma poi comunque a me non piace, onestamente... A me non piace tanto essere sottomessa in questo modo, capisci? Cioè, non ti piace? A me piace di più governare la situazione, anche a livello mentale mi eccita di più governare. Ma lui in divisa, ti scopa mai in divisa? Ah beh sì, bello, ma sono io che dichiaro queste cose divertenti, simpatiche. Amica mia, ma è una cosa spettacolare. Tu sai che cos'è il sesso ascellare? Ma sai che l'ho sentito, ma che non l'ho mai fatto, l'ho sentito. Cioè sostanzialmente... È ancora vergine l'ascella, è una grande informazione questa. È vero, cavolo. Vedi. Aspetta che glielo dico, un attimo. Chi è il marito? Chiama via. Volevo dirgli, sono vergine all'ascella. Chiamiamo un militare americano al telefono, che ci frega, il Pentagono, le cose, cioè, fa stupendo, meraviglioso. Ma i piedi sono vergini, Michela? Cioè, oltre alle ascelle, dov'è che sei vergine? Spiegami. Il padiglione auricolare, immagino. Le orecchie. Le orecchie, non c'è dubbio. Certo. le orecchie, i piedi non credo, qualche sega con i piedi l'avrei fatta, insomma, credo, qualche sì, foot job, sì, è foot job è divertente. Senso, un quadro completo, comunque, quadro completo. Lo squirting lo pratichi o no? Ma sì, è successo, è successo. Ultimamente però mi sono calmata perché con questa causa, anche per questo chiedo 5 milioni, perché anche a livello sessuale, da questo trauma che ho avuto, sono diventata un po' più Un calo della puritana. Cioè tu chiedi 5 milioni anche perché ti ha creato dei problemi psicologici. Infatti si vede e praticamente io sono pronto a testimoniare, potrei testimoniare che da quando è in causa Michele Morellato ha iniziato a chiamarmi e questo è un chiaro segno di disagio psicofisico. Scusami, ma hai avuto problemi anche, non credo, ti masturbi anche di meno o ti masturbi sempre? Anche di meno. Ti piace o no? Ti piace o no masturbarti? Dimmi la verità. Ma penso che sia una cosa corretta, è molto bello, è ma molto i sex toys, Michela? Abbiamo qualche dildo? Non mi piacciono. Un vibratorino. E qual è la tua posizione tradizionale quando ti masturbi? No, normale, proprio, sì, anche in vasca da bagno è molto divertente. Vasca da bagno, amico. Tranquilla, proprio relax, capito? Relax, vasca da bagno, vasca da bagno e via. A cosa pensi quando ti masturbi? A Cruciani. No, ma dai, dai. E a Conte. Come Conte? E anche a Cotardo qualche volta. Che meraviglia. Anche i parenti. Ma veramente ti piace? Grazie, no, non importa, grazie. Ti piace Conte? Grazie. Ti piace? Giuseppe o Antonio? No, Giuseppe. Giuseppe Conte è, diciamo che se non fossi sposata ci avrei provato. Giuseppe Conte è il tuo sogno erotico? Che cos'è che ti fa? Non ho capito, che cos'è che ti attira? Non lo so, mi fa impazzire la sua voce, come parla, come si esprime. Che è proprio un maschio, un uomo di questa età che prende in mano un paese, prende in mano la gestione, chissà come mi prende in mano a me, capito? Ti sei masturbata pensando a Conte, diciamo la verità. Diciamo che potrebbe essere successo. Ciao Michela, ciao con quest'ultima cosa. Un bacione. Ciao. Che meraviglia. Pippe, molte pippe. Beh, non tradisce mai la signora Morellato, eh? Non tradisce mai le attese. Non tradisce mai le attese. Andatela a vedere che cosa è la signora Morellato. Purtroppo solo al telefono. Purtroppo in causa col Pentagono, vive negli Stati Uniti, ci manca. Sì. La presenza fisica, reale, concreta, in carne e ossa. Pensa a una Morellato che si fa massaggiare nello studio di Radio 24. Luciano da Pescara, se fosse qui sarebbe ogni giorno sarebbe un cinema. Luciano da Pescara, vai, dimmi. Buonasera Giuseppe, mi sembrava di essere sul set di un film porno. Fatele più spesso questi collegamenti. Quali collegamenti? Con la Morellato. Con la Morellato, con chi? Con mio fratello. Ti sei arrapato con la Morellato? Parecchio. Che maiale. Abbiamo creato una generazione di maiali, di persone. Compagnia. Tu sai che ho letto qualche giorno fa una statistica di queste qua, non so se siano vere o no. Scusami, non vorrei mica arraparti con la Martani, ti arraperai con la Morellato anche la fisicamente. La Morellato è molto più geomonica. È una gara, anche una gara. Un altro livello, ragazzi, posso dirvi una cosa? Pare che vadano di moda tra le femmine gli audio porno invece dei video porno. Ho letto una ventina di giorni fa una statistica. Io non credo ad alcuna statistica di questo tipo, però sembra che le donne in America, non so dove fosse questa gradiscono statistica, le porcherie. Gradiscono molto gli audio, sentire anche solo l'audio. Posso garantire. Ma che ne sai, solo, che sei una donna? Non solo in America, anche in Italia. Cioè, che c'entra? Scusa, tu non sei una donna, come cazzo fai a dirlo? Scusami. Perché l'ho fatto con donne. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Sesso al telefono? Messaggi erotici. Cosa ho fatto? Ma mandi un messaggio al nostro numero per testare la sua capacità a questo punto. Sto dicendo un'altra cosa, Luciano. Cioè, sto dicendo che le donne si arrapano, dice questa ricerca, che si arrapano sempre di più, non più, anzi, con i video porno classici, eccetera, ma con il rumore, il suono di un rapporto sessuale, insomma, semplicemente con il suono, hai capito? Cosa intendevi? I messaggi tra di... intendevo che io mando un messaggio vocale alla mia compagna e che tipo di messaggi mandi, scusa? Ma i messaggi normali, tipo? Ti prenderei così, ti prenderei a pecorina, ti leccherei tutta, ti sfonderei. Mi sembra un grande messaggio da mandare. Ne avevamo uno, perché invece no, un giocatore dell'Udinese, noi di messaggio. Sai, un po' indietro mentalmente. Cioè, non ho capito, Luciano, tu mandi un messaggio alla tua compagna, bella, ti sfonderei? Bella coppia, bello. Vabbè, erotico. Qual è il problema, ragazzi? Erotico, ma non è erotico, cos'è coppia, un divano? È un divano, la sua compagna ti sfondo come un divano. Ma che roba è? Ma no, ma ti sfondo come una botte. Non è così strano. Cioè, non è così strano. Perché state attaccando Luciano che sta dicendo? No, ma non è normale che ne parli pubblicamente. Ma scusa, non è che tu non hai mai mandato un messaggio a Otto a una tua fidanzata, David? Di la verità. Ma lascia perdere il contenuto, l'avrai mandato. Ma però. No, stiamo parlando del contenuto di questo signore. Questo signore uomo di Neanderthal, usa un linguaggio da uomo di Neanderthal. Il chierichetto. Perché? Io che c'entro, Carichetto? Scusa, io sono d'accordo. No, Cruciani, scusa, no, è Parenzo. No, Parenzo ha mandato, secondo me, una marea di messaggi porno, non lo vuole dire, ma ha mandato una marea di messaggi anche hot, pesanti. Ma figuriamoci. Pesantissimi, ma hot. Figuriamoci. Il messaggio più pesante che hai mandato. Ma figuriamoci. Senti che ritmo. Il messaggio... Sembra flamenco, sembra. Olè, sembra una ballerina di flamenco. Il che messaggio più hot che hai mandato, qual è, Luciano? Beh, l'ha detto, quello che ti dicevo prima, ti prenderei tutta, ti leccherei dalla testa ai piedi. Ma in audio ho scritto? In audio, sto parlando io. Io però gli audio mi annoiano, devo dire la verità. Al limite no, scrivo. Vabbè, ma non è che lo fa, uno lo deve fare sempre. Fermi là. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come Samontana, che da Empoli ha conquistato il mondo dei gelati, dell'acquasanteria e non solo. Sentiamo uno dei titolari amministratore delegato, Leonardo Bagnoli. Noi siamo un'azienda che ha come concorrenti le multinazionali, le più grandi multinazionali estere nel campo alimentare. Replica Sistemi ci aiuta a competere nei nostri mercati e ci ha permesso di fare degli sviluppi importanti in ogni settore aziendale. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come notebook Asus con SSD 256 GB a €399 o in 20 rate da €19,95 fino al 2 febbraio. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Buonasera, partiamo nel telegiornale. Sulla 7, ogni giorno alle 20, l'appuntamento quotidiano con il TG di Enrico Mentana. La 7, sai cosa vedi. La zanzara. Luciani, tiene ragione Alba Parietti. Prima di votare, una settimana prima di votare, da un test di 100 domande, se il soggetto in questione mette la crocetta, siamo andati sulla luna, mette no, non ha diritto al voto. I vaccini causano malattie, se mette sì, non può votare. Semplice, gli ignoranti non devono votare. Stop. Il bello è che oggi Alba Parietti, dopo aver fatto la sua uscita ieri, sicuramente da alcuni interpretata male, sono sicuro che Alba non vorrebbe togliere il diritto di voto, che ne so, a chi ha la terza media o chi ha la prima media. Ed ecco i colpi di lingua, no, e le scusazio ha detto, non ma petite. Ho detto che, ma scusa, ieri ho detto che ha sparato una cazzata pazzesca. Però non devo difendere nessuno. Sarà arrivata la telefonatina. Ma quale telefonata? Ma quale, ma non dire cazzate. Ma di quale Alba. Telefonata? Ma quando mai? Giuseppe, allora, pensavo che fossimo amici. Ma vaffanculo, ma hai parlato di male di me, la zanzara. Ma ho detto che ha detto una cazzata. Ma no, Alba, domani. No, domani il bello è che l'attacco sì, ancora sì. Di più. L'attacco ancora di più, dicendo che oggi si lamenta che Salvini ha scatenato l'odio social nei suoi confronti. Salvini fa quello che ha. Che fa, diciamo, il suo staff mediatico. Appunto, prende dei pezzi. Quello fa, esatto. Ma cosa vuol dire? Una tecnica. Social di ricino. Ma non c'entra un cazzo. Prende delle parti di trasmissione. Non c'aveva nulla da dire. Non c'aveva nulla da dire oggi. Ma figurati. Quindi ha preso. Quando annusa che la giornata è debole politicamente, non c'è nessuno da attaccare, non c'è più la Fornero. Prende la Parietti e dice sparate. Ma cosa dice molto sparate? Semplice. Dice che cosa devo sentire da Alba Parietti? Ecco, e la mette dire, su internet. Ma chi se ne frega, la sua tecnica? Battetelo alle elezioni come avete fatto in Emilia Romagna e non rompete i coglioni. Io non devo battere nessuno. Dai, mi su. Fa ridere che tu lo appoggi. Ma lo ma capisco, io non appoggio fa benissimo nessuno, non me ne frega un cazzo. Ti daranno un premio, fai benissimo. Ma smascherare la sua tecnica, prendere Alba Parietti, il principale militante antimeloniano e antisalviniano, viene a dire a me che io appoggio Salvini. Non sono Salvini. Militante di niente. Dai, non sono tu, militante di nulla. Comunque oggi che cosa ha detto? Ho punti oggi, di vista, non sì, sono vabbè, militante. Oggi ha detto che cosa? Ci credi solo tu? Oggi ha detto una cosa molto vista, semplice. Ho un punto di vista, dai, certo. Su, Davide, non ci pigliamo per il culo. Cioè sono un militante oggi, politico adesso. Beh, antisalviniano e antimeloniano, su questo non c'è dubbio. Lo giudico non ho detto sulle che cose, sono un militante lo politico. Giudico sulle ho detto cose. Che non sopporti la Meloni e Salvini, il loro modo di fare politica. Ma non l'ho mai detto di non sopportare. Non li sopporti, punto. Ma non ho detto una cosa così strana. A proposito, gli amici tuoi che ti tradiscono, leggo dal Corriere del Veneto, i leader delle sardine incontrano Toscani e Luciano Benettone. Pensa te, Oliviero Toscani Sardina è uno di noi. Toscani lo chiamo, incontra le sardine. Toscani, ma li dovrebbe mandare a fare in culo. Insaccati Toscani che ti tradisce, ti pugnala dove ti fa più male. Ha incontrato le sardine a Treviso, allora, a Fabbrica. Stavo dicendo, pensa te, ammazza che culo. Bene, ammazza che bene. Culo. Per conoscere, capire la creatività, è un uomo creativo Toscani. Grande Oliviero Toscani. Essendo un uomo creativo, essendo un creativo, ha capito che in quel movimento c'era della creatività. Certo, e quindi l'ha incontrato. Non ha capito. Cazzo. Allora, infatti, le scelte politiche di Toscani sono note per essere. Cioè, voleva entrare nel PD, voleva fare iscriversi al PD. È stato uno di minoranza, di battaglie di minoranza. Allora, fermi tutti. Stavo dicendo una cosa, però, mi avete fatto perdere il filo. Tra Parietti e Toscani, stavo è una dicendo che la Parietti. Si protesta per l'odio social che Salvini avrebbe scatenato nei suoi confronti. Ragazzi, con questo politicamente corretto vostro, avete rotto il cazzo. Ha detto una cosa? La roba va a finire sui social, a prescindere da Salvini. Sti grandi cazzi, quello allora che la gente fanno scrive. Bene i napoletani ad attaccarti. Dai, con quei toni, allora. Ma chi se ne frega? Allora fanno benissimo i napoletani a dirti quelle cose. Sto dicendo ogni che giorno c'è piangi. Social. Ogni giorno piangi di quella cosa. Piangi allora devi tua, dire piangono. Che fanno bene i napoletani a dirti quelle cose. Rosario, provincia di Padova. Cosa che io non penso. Ma non dico che c'è l'odio ogni social. Giorno piangi, come no? Ma figurati. Ogni giorno rido, dici, i napoletani rido. mi attaccano. Questo è quello che hai. Allora, fermo là. La contessa De Blanc sul sesso. Di mattina, mattino 5. Allora, quando ancora in Italia non c'erano questi sex shop, eccetera, c'erano a Parigi. Allora partimmo con la principessa Giovanna Pignatelli, che adesso non c'è più, ma in ogni caso ti racconto la storia, perché siamo andati a Parigi e abbiamo comprato due valigiate di tutti questi sex toy, uccelli di gomma, tutto questo per portarli in regalo. Sempre e, riservata. A Roma, no? Che avevano detto, portaceli. La nobiltà. Arrivati all'aeroporto di Fucino, che succede? La mia valigia non chiudeva bene. C'era la cosa delle guardie, così dice: apre, guarda che c'è, l'apro e cadono tutti questi oggetti per terra. Oh, fantastico! Non puoi immaginare. tutto quanto invasa di uccelli, di cose, di... Sì, no, vabbè, magari... No, Patrizia, insomma, no? Usiamo anche termini un po' più... sì, di... No, no, no, sei stata chiarissima, parlo dei volatili. Certo, Patrizia. Perché ne aveva comprati, parlo dei volatili, Certo. Ne aveva comprati volatili imbalsamati. Tutti i miei amici, sapendo che andavo a Parigi, dice, senti, ci porti un pensierino dall'altro. Per gli amici sempre. Beh, sì, che io che ci faccio io con 20 cose, gabbia, 30 li... Dottoressa, no, me l'ha portato uno in regalo dall'America l'anno scorso, perché era l'ultimo ritrovato, che cosa, non l'ho mai adoperato. Non voglio sapere, no, cos'è. Ma come non vuoi sapere cos'è? Ma fatti dire cos'è. Ha raccontato che portava gli uccelli di gomma da Parigi. Fatti dire qual è l'uccello di gomma, il sex toy che le hanno portato dall'America. E se lo usa, non lo usa, perché non lo usa? Dai, su, dai, la realtà, direbbe Parenzo, la ma realtà. Ma a quell'ora del mattino, però, poveri. Allora, come fai a dirglielo a quell'ora del mattino? Il famoso early bird. Scusi, ma lei non sta preparando qualche altro grande prodotto sulla Cina? Freccero, un prodotto sulla Cina, non c'è un prodotto sulla Cina. Naturalmente stiamo ragionando, naturalmente, di fronte alla tragedia, stiamo ragionando allora, con i nostri... Sì. Con i nostri autori, sì, con i nostri autori. I nostri autori di Farmat, come dite voi. Stiamo allora cercando di capire come raccontare questo dramma incredibile. Quindi l'idea è molto molto semplice, naturalmente. Vabbè, è quella di mandare, naturalmente, colui il quale mi ha cacciato dalla Rai, cioè Salini e Renzi, in Cina, naturalmente, con delle telecamere, naturalmente a Wuhan. E stare lì con le telecamere 24 ore su 24, fare un grande canale cinese. Ma ovviamente senza mascherine, mascherine. Naturalmente, dai, con la mascherina, dai, ridicolo, non fa ascolto. Ma dai, Renzi, naturalmente in Cina è molto televisivo, molto, naturalmente. Cioè, mandare Renzi a Wuhan, circondato da quelli di Italia Viva, tutti questi politici che parlano senza vedere, una grande cronaca in diretta, naturalmente, in Cina, senza protezioni, tra la gente, tra il popolo, dai, che funziona, che lei l'abbia proposto in queste ore alla Rai, no? Naturalmente, non mi hanno aperto più, naturalmente non ho più l'ufficio, naturalmente, alla Rai, e provo a entrare, naturalmente non c'è più il badge, scaduto, dicono no, scaduto. E allora chi le fa le proposte? Naturalmente sono davanti alla Rai ogni giorno, naturalmente, con dei cartelli, con tutti i format, una cartella piena di format, naturalmente, ogni volta che esce qualcuno della Rai io do il mio format, naturalmente. Bocciato anche questo, immagino, questo qua di portare dicono tutti che è antietico, che non si può, pericoloso, coronavirus, ma dai, ma quale coronavirus? Beh, dai, la realtà è ridicolo. La gente muore, dice, la gente muore, normale, la vita nel è mondo, la... chiunque, dai, se non lo vedi in televisione non esiste, naturalmente. Cioè, se non vedi la morte. Dai, non l'abbiamo mai vista, solo queste mascherine ridicole, che cos'è? Beh, dai, c'è qualcuno che cade per terra così. Ma però non fa ascolto, non invece funziona. Il politico che muore in diretta lì, soprattutto di Italia Viva, uno potrebbe dire Italia Viva. Numeri 32% di share, naturalmente, in prime time, 32. Te credo, con quelli di Italia Viva, che a quel punto sarebbe morta, e muoiono in diretta. No. Dai, che piace, dai, funziona. Allora, Ambrogio da Pavia. Ambrogio, dimmi. Pronto, carissimo, ciao. Carissimo, i mortacci. Allora, ascoltami, io vorrei sdrammatizzare un attimino la storia del coronavirus. Sdrammatizzare, sì. Perché di virus, secondo me, di virus più o meno pericolosi ce ne sono a bizzeffe. In questo caso, secondo me, i poteri forti imperialisti, tramite i servizi segreti, hanno tirato fuori la storia del coronavirus per dare un segnale alla Cina di abbassare le ali sui mercati lei un internazionali. No. Come? Tu non ho capito, è opera dei servizi segreti, dunque? Una cosa del genere? Secondo me sì, secondo me sì. Opera dei servizi segreti per dire ai cinesi abbassate le ali sui mercati internazionali. Per punirli, insomma. Sì. È un po' come quello che è successo nel 73 con la crisi petrolifera. Molto intelligente. Hanno mandato a insegnare l'Europa chiudendo i rubinetti. Cioè, secondo te hanno fatto un grande complotto contro la Cina per motivi economici, esatto, eccetera, e hanno inoculato questo virus. Inoculato. Secondo me sì, secondo me sì, dai. Secondo me fa 2 o 3 mesi non ne parla più nessuno. Non ne parla più nessuno, non ne parla più nessuno. Quindi andiamo nei centri massaggi cinesi, facciamoci delle sane scopate e andiamo a mangiare. Cosa c'entra questo? Sì, secondo me dovrebbero essere autorizzati a farci scopare, lo sai? La grande battaglia che si potrebbe fare è autorizzare i centri massaggio cinesi. Ora voi ditemi, non l'ho detto prima perché non mi è venuto in mente. Allora, che differenza c'è tra un massaggio e una trombata? Voi mi dovete dire qual è la differenza. Il risultato è il godimento. No, la differenza è nella vostra testa bacata. La differenza è questa, il tabù che avete nei confronti del sesso. La differenza tra le mani sull'uccello, le mani sulla schiena. Qual è la differenza? Pagare delle persone sfruttate. Ma se ti mette le mani sull'uccello o ti mette le mani sulla schiena, qual è la differenza? Me lo dite voi? Non è qual molta è la differenza? Nel caso della masturbazione, nel caso no, ma non c'è nessuna differenza. Completo. È la vostra cultura bacata, la tua cultura bacata. Il mio uccello mi fa godere molto di più della mia schiena, se permetti. Ma per qualcuno invece magari la schiena, ma anche quella è una forma di godimento. È la stessa cosa. Se tu hai l'uccello insensibile, allora come la schiena. Dai, ciao. Mi sembra che ci sia un negozio di Padova, una pasticceria di Padova, dove vogliono impedire agli animali di entrare, giusto? Hanno messo un cartello? Pasticceria di fiducia poi di tutta la questura, e il questore lo trovi sempre cioè, lì. C'è stato un cartello nei giorni scorsi, eccetera. Non lo so. Chiamiamo. Anzi, hanno chiamato per noi. Uno incazzato nero, solito animalista incazzato nero. Buongiorno. Sì, buongiorno. Scusi, parlo col proprietario del locale? Sì? Sì, buongiorno. Io mi chiamo Orazio Lupo. Io sono il presidente dell'associazione animalista Viva Bau di Castelcuco. E senta, ma non vi vergognate a sbattere fuori dal locale 2 innocui cani al guinzaglio con la sua padrona? Lo trovo una cosa aberrante, una cosa vergognosa. Bisognerebbe prima sapere come ci si comporta in un negozio. E senta, lei non ha permesso a quei cani di entrare. Penso che il rispetto per la persona e per chi espone un cartello sia il buon vivere e il vivere con... Ma lei non ha fatto entrare 2 cani al guinzaglio innocui? Il cartello esposto sulla porta in cui è scritto noi aspettiamo fuori. Ecco, allora questa è discriminazione, questo è razzismo. Ma chi l'ha detto? Ma come chi l'ha detto? Parla di razzismo, ma che tipo di razzismo vuole imporre? È razzismo nei confronti dei cani. Se sono cani al guinzaglio, innocui, educati, è lei che è dalla parte del torto. Questo è razzismo nei confronti degli animali. Sarebbe lei... È il suo pensiero. Sarebbe lei da cacciare dalla società civile. Se questo è il comportamento, questo è nazismo. Ma io posso mettere un cartello dicendo che il cane non può entrare nella mia attività? Questa è veramente. Non è civiltà. Ma lei, siamo in democrazia. Questa è una sua scelta. Io la rispetto. Se lei vuole. Ma è lei che non rispetta gli altri. Ma è lei che non mi rispetta. Se io ma assolutamente no. È discriminazione. Sti poveri animali e la padrona educatissima. Ma con 2 cani al guinzaglio non può entrare, ma si rende conto? Siamo nel 2020. Lei vive durante il fascismo, durante il nazismo. Lei si informi prima di parlare, così si informi meglio. Guardi, glielo consiglio io. Senta, mi sono letto tutti gli articoli sulla cosa e quindi io mi sono informato. Io non ho cacciato nessuno, tanto è vero che abbiamo querelato anche il giornalista. Anche querelato, poveri giornalisti, perché dicono la verità, cioè che lei non fa. Lei non fa. Ma lei che cazzo, da dove chiama lei? Io chiamo da Castelcuco. Da Castelcuco, gliel'ho detto che chiamo da Castelcuco. Ma dov'è Castelcuco? Come non sa neanche dove sei. Lei è veneto e non sa dove è Castelcuco. In provincia di Treviso. Si informi, vede la sua ignoranza geografica, testimonia limpidamente anche la sua ignoranza civile. Io vorrei sapere lei da Castelcuco come fa a sputare sentenze. Come faccio io da Castelcuco a dire queste cose? Lei oltre ai cani discrimina la gente di Castelcuco. Questo è razzismo. Ragazzi miei, c'è una sola parola da dire. È finita, caro Parezzo. Tutto finito. Italiani! Italiani!